le novità sono ottime perché la Madonna è riapparsa. Credo fermamente nei segnali superiori che Fatima continua a dare, che la Madonna proprio dai tecnocrati dell'Europa non ci voglia venire. Brutti miscredenti! La Zanzara. Loro ci stanno andando, quelli del PDL o del FUPDL, perché non sappiamo come andrà a finire. Oggi c'è stata una riunione, caro Parenzo, di Berlusconi con tutti, Cicchitto, La Russa, Gaspari, sì, eccetera, eccetera. Tutta la compagnia alcuni cantante. Dei quali si erano riuniti lunedì in un noto ristorante romano, pare per fare la fronda nei confronti dello stesso Berlusconi, ma lasciamo perdere questo affair. E insomma, la situazione com'è? È cambiato qualcosa? No, c'è un casino pazzesco. Siamo rimasti al punto di partenza. Il punto di partenza è raffigurato, fotografato da questa frase di La Russa. Sentite. Sta riflettendo, non ha deciso. Avete capito? Sta riflettendo, non ha deciso. In attesa di cosa? Quindi le primarie per ora rimangono confermate il 16 dicembre. Ma non si faranno mai. No, ma questo è il paradosso assoluto, è questa roba qui. Crosetto, che è uno di quelli seri, diciamo, in quella situazione, dice: PDL partito dell'attesa, mi sta togliendo la dignità. Beh, allora esci, no? Sentiamo. Tra PDL e PDA, da Popolo della Libertà a Partito dell'Attesa. Voglio una decisione, voglio una linea politica, vorrei cose concrete, perché altrimenti, siccome ho anche un altro lavoro, posso benissimo tornare a farlo piuttosto che star qua rovinarmi quella dignità che mi ha lasciato mio padre in nome per conto di un partito che non sa decidere. Bella questa canzoncina che ho tirato fuori, Allo sbando. La canta un tale che si chiama Gianfranco Manfredi, magari è conosciutissimo, non lo conosco io. Tale. Galan intanto parla di canne. Non abbiamo mai chiesto uno dei nostri must, Galan, sì. Però da Fabio Volo si è lasciato andare. Si è lasciato un po' andare. Lei, Galan, in amicizia tra me e lei, che ci stimiamo, lei non si è mai fatto una canna in vita sua? Sì. Sì. Per quello che poi. Sapere, no? E poi si è candidato al PDL perché era troppo pesa. Due volte, per la verità, sono stato malissimo tutte e due le volte. Vabbè, tutti copiano tutti, però. Siamo stati noi i primi. Vabbè, ma lasciamo perdere, non ce ne frega niente di queste cose. Ma la frase del giorno è di La Loggia. Ah, l'ex ministro La Loggia. Sì. Che fine ha fatto su La Loggia? Ecco, era scomparso dai radar. Ha detto oggi la minchiata del giorno. È un ragionamento in realtà che ha una sua fondatezza, se non fosse un po' comico, diciamo la verità. Sentiamola, siamo in una fase che ha definito di travaglio preparto. E travaglio, cioè Marco Travaglio non c'entra nulla. C'è una mamma incinta al nono mese, siamo nella fase del travaglio pre-parto. Vogliamo lasciare questa mamma un po' tranquilla a pensare al suo bambino che sta per nascere? E poi ha aggiunto, vedremo se questo bambino si chiamerà Silvio. Ma che tristezza, ragazzi, che tristezza. Qui abbiamo una persona accanto a noi che da poco tempo si è liberato da tutte queste cose. Voglio capire se è contento di essersi liberato da queste follie o no. Adesso glielo chiederemo, perché sarà felicissimo di essersi liberato da questo manicomio, perché è ormai un manicomio in cui non ci si capisce più nulla. È bello che queste persone pensano di avere ancora del consenso, invece secondo me vanno avanti a dire queste cose e, no, non sapendo lo sprofondo in cui andranno a finire. Sono già finiti. Ma sprofondo politico, naturalmente. E giustamente Bersani dice: non vedo l'ora di sfidare Berlusconi. Auguri, volgo i miei auguri a Berlusconi. Se sarà quella la sfida, la faremo. Io francamente non vedo l'ora. Te credo, cioè, è normale che non sia c'è così. Nulla dall'altra parte ancora. No, ma a Bersani conviene uno scontro con Berlusconi, perché come Berlusconi, insomma, le sue fiche politiche sono pochissime. Ma per concludere questa prima parte, il numero, il top del giorno però è questo signore, uno di quelli che si espongono al pubblico ludibrio, anche se non bisogna infierire moltissimo, noi inferiamo lo stesso. Si chiama Magarelli, in queste parlamentarie dei 5 Stelle. Ma come si fa a organizzare cose di questo tipo? Il tuo amico Grillo l'ha fatto. Ma no, io non è. Io guarda, il tuo amico che io, Beppe. Guarda che io Grillo lo giudico da quello che dice, non ho pregiudizi in assoluto. Appunto, non ho mai e da avuto. Quello che fa anche. E da quello che fa. Questo si chiama Magarelli. Senti, questo è il top. È il top che abbiamo beccato. Qualcuno dice, anzi, Zoro dice che queste cose sono una droga. Io ne ho ascoltate un po'. Effettivamente, qualche volta rappresentano una droga. Cioè, non ti puoi staccare dal sentire queste follie. Senti, questo Magarelli è un romano che si vuole candidare al Parlamento. A me mi è arrivato la chiamata dal call center. Oh, ti ricordi che nel 2008 ti eri candidato? Lo sai che potresti pure presentarti per Parlamento? Io gli ho detto di sì, ma sinceramente entro io, entra quell'altro. È indifferente. L'importante è uno solo. Tra dentro, dagli fuoco. Cioè, proprio sterminali. Ma chi stermini? Quelli già sono morti. Vabbè, gli facciamo un'estrema unzione, già gliel'abbiamo fatta. Di conseguenza dobbiamo solamente scavargli la forza. Ah, sa, stanno a scavare da sole. Magarelli, sei il numero uno. Sei il numero uno. Lo sentiremo più avanti. 800 24 00 24. E con noi Giorgio Clelio Stracquadanio. Buonasera. Ah, applausi per cortesia regia, perché erano secoli che non vedevo più la sua faccia neanche in televisione. Era sparito. Eccolo, Straguada, voi che siete in macchina. Ma perché Straguada? Mollate il volante. No, perché e urlate. Non molli nessuno il volante. Mollate il volante, mettete la quarta e urlate con noi. Straguada. Ma no, perché Straguada? Insisti. Perché non sa pronunciare. No, lo fa apposta perché Straguada. Onorevole Giorgio, a lot of money. In inglese, no? Beh, sempre molto elegante. Ma come sta? Come sta, onorevole? Perché bene, grazie. Ero preoccupato, non va più nei talk show. Adesso ha fatto un movimento che si chiama Italia Libera. Ma Italia? Italia libera. Libera da chi? Da Berlusconi? Libera. Anche da Berlusconi? Libera. Anche da Berlusconi? Non lo so, libera. Scusi, sta qua d'anni. Quello è uno dei compiti miei più facili, se fosse perché? Quello. Perché? Perché lo sta facendo da solo Berlusconi. Ah, si sta dando la zappe. Suicidarsi. Si sta suicidando da solo, diciamo la verità. Ma come mai è finito così? Non le fa un po' pena anche quest'ultimo? No, mi fa tristezza. Pena no. È un sentimento. Ecco, che sentimenti le provoca questo Berlusconi indeciso? Sì. Questo Berlusconi... Non è indeciso. Il problema è morto. Quello è scontato. Sì, no, no, il problema è che non è indeciso. Okay. Il nulla di fatto al vertice si spiega molto semplicemente con il fatto che il governo decide domani sulla data delle elezioni regionali. Sì. E Berlusconi ha deciso... Sì. Di volere l'election day. Ma è impossibile tanto ormai. Lo so, ma il problema è che lui vuole anticipare la data delle elezioni non rispetto a qualcosa di così di astratto, di generale, perché non è che ha in questo momento una condizione per cui dice se andiamo a votare prima possiamo vincere. Per perdere di meno, per che cosa? Non ho capito. Per che evitare sconfitte multiple. Lei ha letto l'Huffington Post? L'Huffington ieri l'articolo di Alessandro De Angelis, l'ombra del caso Rubi, sempre molto illuminato. Ah, per evitare la condanna, di arrivare alle elezioni con la condanna. No, per essere, siccome è certo che gli arriverà una condanna, per essere candidato alla premiership prima della condanna, di modo da lamentare la persecuzione della condanna. Ah, cioè secondo lei vuole e essere... quindi fare scudo si candida del, quelli del, lo condannano di quel poco di consenso popolare che gli resta rispetto giocando alla ancora condanna. Con i magistrati, insomma, giocando ancora alla questione giudiziaria. Se si vota il 10 febbraio, si vota il 10 marzo, che differenza c'è? La differenza che prima si vota, ma già ridovolo votare la differenza è che lui condanna. Non è ancora ufficialmente candidato se si vota il 10 di marzo quando arriva la condanna, e forse non può candidarsi politicamente. Vabbè. E quindi è un problema. Vabbè, ma che sentimento in questo momento, che sentimento al di là dei didatticismi, cioè che sentimento è un tatticismo che ho chiamato politica orologeria. Ma che rovescia la giustizia orologeria. Che sentimento le suscita Berlusconi in questo momento? Lei che è stato quello del predellino, quello che gli altri devono passare sul mio corpo se vogliono liberarsi di Berlusconi, insomma, che è stato un pas d'arante. Non sono riuscito a interporre il mio corpo all'autodistruzione di Berlusconi. Questo cioè, è arrivato prima Berlusconi a distruggersi. A distruggere la creatura politica. Ma un po' ha distrutto anche il paese o no? Guardi, sulla distruzione del paese ci abbiamo molto da discutere, perché ha contribuito per anche lui. Diciamo che non ha cambiato quello che doveva cambiare, non ha rispettato l'impegno elettorale. Ma questo sentirla parlare così, l'ho detto a luglio. È tornato una persona normale. Ma però già l'ho detto a luglio. No, è tornato una quando me ne normale. Sono andato. No, lei vabbè, è da luglio. È tornata una persona normale. A luglio. Fa piacere. Lei si vede che a luglio era in ferie. Sgarbi ha detto che senza. Perché lei, come dire, lavora molto meno degli altri. Sgarbi ha detto che senza Berlusconi, voi, cioè quelli che avete fatto Italia Libera, ex PDL, Italia Libera, che avete fatto questo movimento, senza Berlusconi voi sareste andati a pulire i cessi. Così ha detto Sgarbi, ha sentito, sì? Sì, l'ho sentito. A parte questo disprezzo per chi pulisce i cessi, visto che c'è qualcuno che li sporca, forse Vittorio, perché è incontinente nella parola, ma forse anche nelle altre cose. E io non disprezzo chi pulisce i cessi. Se avessi necessità di andare a lavorare in un però ha detto che proprio senza cessi, Berlusconi voi sareste stati nulla, niente. Adesso lo tradite. E adesso... in secondo luogo io vorrei ricordare a Vittorio che, come dire, abbiamo ognuno avuto un cursus honorum politico improprio in altri partiti, perché per quanto mi riguarda io ero nel Partito Radicale e sono nato agli onori della cronaca nazionale quando c'è stato il referendum sulle televisioni di Berlusconi. Ma però senza Berlusconi lei in Parlamento non sarebbe entrato, anche lei l'ha detto. Ma io l'ho volte. Detto, ma io l'ho detto. E lui, ma non è che sarebbe andato a pulire i cessi, avrei fatto un sacco di altre cose. Sì, vabbè, quella è una metafora. No, guardi, per dire che il tradimento non c'è in questa non posizione. Si sente di aver tradito, no, Berlusconi. Io mi sento di non aver... vi siete mai più sentiti? Gli deve tutto, no, a lui, su, glielo dica. Io a te, no, sì, tutto gli deve. No, tutto no. Quasi tutto. Tutto no. Io sento, tutto. Io sento che il rapporto debito-credito è pari, perché non è che io non mi sia speso nella mia vita a favore. Lei una volta ha detto: io sono estremamente fedele al cavaliere. Cioè, una volta quando parlò degli altri. Fedele non parlo. Come, no? Mai di fedeltà. Sì, sì, no, sì, sì. Sono detto adesivo. Aderisco al suo modo di pensare. E che lui a un certo momento si è smarrito. Era adesivo al cavaliere. Cioè, adesivo, come si intende, sì, in termini di pensiero. No? Di pensiero. Di solo che è lui che si è smarrito. E lui si è staccato. Si è staccato da lei. Berlusconi che si è staccato dai suoi elettori, innanzitutto. Lui ha perso. Ma non se ne rende conto. Due terzi degli elettori li ha persi e sono essenzialmente quelli che votavano Forza Italia. Vabbè, tutte queste donne gli hanno fatto perdere la testa. Dai. Questo ormai si può dire. Ma lei è un uomo libero? No, sa perché non si può dire. Si può dire il caso Rubi, aveva anche prima, lei, il caso ne Rubi. Aveva prima tantissimo. Ma l'ha citato anche lei. Prima caso aveva, Rubi. Non è che prima gli mancassero le donne. Poi sarà condannato. Quindi, e dopo che è successo? No, io credo che sia stato un concorso di fattori tra il fallimento del governo e il fatto che sia stato, dopo il fallimento del governo, anche, come dire, invece di affrontare il tema. Sì. Per cui il governo era fallito e di cercare di stringere il suo elettorato intorno a Monti, invece? Che in fondo era una sua espressione, era stato in passato. Invece? Il primo a nominare Monti in Europa è stato lui, è stato vivere questa cosa come frutto di un complotto demopluto-giudaico-massonico e quindi di avere un senso di rivalsa che è stato espresso benissimo dal mio amico Renato Brunetta, che ogni volta, come dire, ha attaccato Monti per il solo fatto che lui non era più al governo. Allo sbando. Beh, Magarelli, top dei top, cari ascoltatori della Zanzara. Iniziamo alle 18.48. Vi riproponiamo un altro pezzo. Magarelli, candidato al Parlamento per il Movimento 5 Stelle. Io voglio che entri, però dico la verità. No, non mi diverto più. Cioè, non è che ci possano essere tutte persone serie nel prossimo Parlamento. Ma entreranno certi soggetti. Cioè, guarda, ci deve essere il cinema, perché altrimenti che stiamo a fare? Noi chiudiamo baracche e burattini, non, lo dico subito. Non se non entra questo, non tema, o uno simile. Non o tema, uno simile. Non tema. Non chiudiamo tema. Tutto qua, visto, chiudiamo che lei, tutto. Visto che la miglior classe dirigente De Grillo, cioè Favia e gli altri, sono già stati eliminati, che sono i migliori. Tu la chiami migliore, avremo soltanto questi. Avremo solo questi. Sentiamo un altro Magarelli. Un altro tutti. Magarelli, regia. C'è sta adesso il 21 dicembre del 2012 la profezia Maya, c'è la fine del mondo, ma tanta gente che gli frega. Cioè, il problema non è la fine del mondo, è la fine del mese, che qui si arriva proprio, cioè un bordello, quindi pure se arriva la fine del mondo, vabbè, che ci frega, non c'è niente da perdere. Casa mia. Ma su questo, perfetto. Su questo poi non ha nemmeno. Se lei ci pensa, Grillo chi è? Un grande comico. Sì. Il suo movimento esprime comici emergenti. È no, fantastico. Ma è fastidio. Beh, questo però è vero. Sta in linea. Cioè, è come fosse un cabaret permanente, cioè prove tecniche di trasmissione. Sì. No. A proposito di cabaret, che lo ingaggi qualcuno. A proposito di cabaret, il suo movimento, non so, ho fatto un link. No, non però so io voglio capire una cosa. Come spera di sopravvivere? Come spera di sopravvivere al prossimo Parlamento? Cioè, innanzitutto, lo fate sto gruppo parlamentare o no? Noi probabilmente ci arriveremo. Ah, vi arriverete a fare il gruppo parlamentare. Cioè, poi farete... incassate pure dei quattrini con questo gruppo parlamentare. Sì, certo. Poca roba, perché siamo a ridosso della finale di legislatura, però, quindi finché... Tutto fa brodo. Fa comodo. Sì, ma non è una grande cifra. Però non voi è fate quello un gruppo, spieghiamo bene, voi fate un gruppo parlamentare... Che chiamerete Italia Libera. Esatto. Incasserete alcuni per un po' di ragione, soldi. Le dico la ragione senza infingimenti. Un gruppo parlamentare può presentare liste elettorali senza dover raccogliere le 200.000 firme per la presentazione delle liste. Il trucchettino. E quindi... Beh, è un trucco questo, mezzo trucco. No, non è un trucco, perché fa è nella il legge, parlamentare. È nella legge. Che lo utilizzeranno probabilmente molti altri. La lista per l'Italia di Casini, siccome non esiste elettoralmente prima, e deve fare un gruppo parlamentare che sia autorizzato a presentare la lista. E che fanno? Faranno un gruppo parlamentare che si chiama Lista per l'Italia prima della fine presterà, della cioè spiegavo bene, presterà alcuni deputati dell'UDC alla creazione di un nuovo gruppo. Forse gli cambia il nome. Cambia il nome e basta. Quando ha deciso, se deciderà di non presentare l'UDC e di fare la Lista per l'Italia, gli cambierà il nome. Vabbè, altrimenti 200.000 le prendono, le fanno le firme, non è quello il problema. Però sì, lei... ma il problema è che i tempi sono sempre più stretti. Ma scusa, perché voi volete presentare l'elezione con una lista che si chiama Italia Libera, no? Noi sì. Potremmo, dipende, ha del sistema elettorale. Ma lei ormai sta con Casini, Montezemolo, questa roba qui, o no? Ma non è detto che lì si possa fare una lista sola. D'accordo, però... Ma possa nascere una coalizione. Siccome è molto... anzi, è certo, io lo sostengo da che si va a votare con questa legge. Si va a votare col Porcellum, perché nelle convenienze diverse... dei principali attori. Non c'è dubbio. Cari ascoltatori, quando ascoltate i partiti che dicono bisogna cambiare la legge, non ci credete. Sì, per molti partiti è conveniente andare a votare con questa legge. E io dico, ribadisco che l'insistenza del Presidente della Repubblica per cambiare la legge è assolutamente irrituale. Non è mai esistito nella storia che un Presidente della Repubblica insista per cambiare la legge elettorale che spetta al Parlamento e alle forze politiche. E sarà anche frustrata. Cioè, dai fatti. Beh, sì, tra l'altro, il Presidente della Repubblica sa, interpreta un idem sentire della gente. Ma idem sentire di che? Che sa che è una... Ma non esiste. Perché alcuni pensano, alle preferenze, quanti soldi prenderete questo gruppo parlamentare nuovo? Quanti soldi prenderete? Sa che non ne ho la 1 milione di euro? No, molto meno. 800.000 euro? No, però servono questi soldi per fare attività politica? Serviranno? Molto poco questi, perché o nasce una coalizione in cui noi possiamo essere la lista, come dire, una delle gambe di questa coalizione, oppure questo ci consente di contribuire a far nascere una lista. Quindi non è la questione, i quattrini sono la parte minore. Gioco, però per rimanere in gioco, insomma, questo è il. Per cercare di portare parte dell'elettorato su una ipotesi che sia competitiva con la sinistra. Lei si è pentito delle frasi che ha pronunciato nel passato, sono estremamente fedele al Cavaliere, ha difeso il Tigiuro di Minzolini. Sì, lo difenderei tutto. Le leggi ad personam. Cioè, non mi pento, non si pente delle difeso. Non le ho mai considerate ad personam. Il PDL è una protesi del Cavaliere, lei aveva detto, e lo conferma evidentemente. Beh, lo confermano i fatti. Se vogliono la testa di Silvio devono passare sul mio corpo, frase. E Silvio se l'è tolta da solo. E cioè Silvio che si è staccato. Si è autodistrutto. C'è una porcheria. Sul mio corpo. C'è una cosa di cui una si porcheria pente, una che ha detto di cui mi vergogno. Dice, io mi vergogno. Di aver fatto il predellino, che ne so. No, di aver fatto il predellino non mi vergogno. No, ma un bel giornale online. Non lo so, cose, citatemi tante cose. Difendere Berlusconi dal caso Rubi, ad esempio. Mubarak, la vicenda visto di Mubarak. Che lei stesso ha no, detto non che mi sarà sono vergognato. Non mi sono non vergognato. Si è no, ma io non penso lì. Che sia la nipote non di Mubarak. Penso, no, che la condanna sia fondata giuridicamente. Penso che però, come dire, il caso gli casca addosso inevitabilmente per il tipo di accuse. Ma voglio dire di aver votato che Rubi è la nipote di Mubarak, si vergogna? No, io non no? ho votato che Rubi è la nipote Vabbè, di Mubarak. Insomma, questa che... era la scusa. Io ho votato un conflitto di attribuzioni dove si diceva che poteva essere verosimile che vabbè, lui lo ritenesse. Vabbè, d'accordo. Però detto questo, io per esempio non ero, si vergogna nel partito no, questa ero contrario al conflitto di attribuzioni. Perché sapevo che non dava vabbè, non cavava un ragno da un buco parte tecnica, per ragioni, però, per non ragioni si vergogna di aver votato quella cosa in Parlamento perché lì c'è una battaglia politica. Non ho votato quella cosa lì, non è che ho votato una dichiarazione. Ho votato momento... uno strumento politico che doveva servire è quello che disse Cicchito, difenderlo tutto qua. Ma che è lo strumento, io lo considero continua a pensare che Ingroia, mi fa vergognare. Continua a pensare che Ingroia è un sovversivo, per esempio? Beh, Ingroia mi dà molti termini per pensarlo. Che addirittura sovversivo? Ma scusi, è andato dicendo che lui fa politica, l'avete ma non cacciato? Si candida. L'avete cacciato all'estero? No, l'avete? Ma chi l'ha cacciato? Chi dai, scusi. Ma chi l'ha cacciato? Chi dai. L'avete mandato lui all'estero? L'avete mandato per fare un perdoni. Lo se avete mandato avuto... via! Ma che via, ma Parenzo, se avessimo avuto il potere di cacciarlo l'avremmo fatto molto prima. Sarebbe stato, sarebbe stato meglio. Non siamo così cretini. Sarebbe stato meglio. Sarebbe stato meglio cacciarlo, no? Prima. Se avessimo avuto il potere di cacciarlo e quindi non è che l'abbiamo cacciato. Ma poi Di Pietro che fa la cosa, poi lo sentiremo dicendo che io sto con Ingroia perché deve avere la libertà di parlare, ma parla sempre, domani è servizio pubblico, ma di che parliamo? Gliela tolta mai questa libertà. Grazie Giorgio Stracolanio, grazie a voi. Ridatemi il grillino, vi prego, rimandatemelo, però quello migliore, non la parte in cui dice un po' seriosamente il problema non è la fine del mondo ma la fine del mese, quello insomma si può essere anche d'accordo in realtà. Ma quella forte, Magarelli, candidato per il Movimento 5 Stelle, Magarelli. Ieri Crozza li ha presi in giro, li ha presi in giro, non casualmente, secondo me. Ah, perché ha ascoltato la Zanzara. Lasciamo perdere. Vabbè, abbiamo detto. Magarelli. A me mi è arrivato la chiamata dal call center, ti ricordi che nel 2008 ti eri candidato, lo sai che potresti pure presentarti per Parlamento? Io ti ho detto di sì, ma sinceramente entro io, entra quell'altro, è indifferente. L'importante è uno solo, tra dentro dagli fuoco, cioè proprio sterminare. Ma chi stermini? Quelli già sono morti. Vabbè, gli facciamo un'estrema unzione, già gliel'abbiamo fatta, di conseguenza dobbiamo solamente scavargli la forza. Ah, sa, stanno a scavare da sole. Ma il pezzo in cui dice io so agente, Magarelli. Io so agente, Magarelli? Numero uno, Magarelli, numero uno assoluto, sentiamo. Però, non lo so, dicono che siamo populisti. Io sono un popolano del Quarticciolo, un quartiere di Roma, e ci hanno ragione quando dicono che siamo populisti, perché quello sei, né più né meno. Dice che il politico deve parlare con la gente. Ecco, parlassero con me, io sono la gente, quindi parlo con me stesso. Fino adesso mi devo mettere davanti allo specchio, parlare, perché ci serve questo, perché ci serve quell'altro. Ma nessuno l'ascolta. Ho trattenuto qui Giorgio Stracquadagno perché mi stava facendo un'imitazione di Berlusconi quando parla di ma Cicchito. Dai. Com'è che fa Berlusconi quando parla di Cicchito? Guardi, io questo Cicchito, Cruciani, non lo so, me lo sono trovato lì, me l'ha portato Sandro Bondi e gli ho detto: Sandro, ma dove l'hai preso? Ma se l'è tenuto per anni, adesso gli fa schifo. Ma come è vero? Mai? No. Come mai Berlusconi schifa? Non è vero. Schifa no, le persone non che lo ha schifa, creato. Non ma lo non schifa, Cicchito, in generale sì. Parlo. Di... No. Il cerchio tragico, un po' tutti questi. Ritiene che questi dal punto di vista della comunicazione non siano efficacissimi, che quando vanno in televisione non ottengono, cioè, questi migliori chi? La Russa, Gaspar, ma non è solo la televisione, pensa che ogni volta che vanno in televisione fanno perdere voti, cioè, o comunque pensa che basta, che bisogna chiudere, ma quello... li ha creati lui, però sì, no, diciamo che lui non li ha creati, lui gli ha dato dei ruoli diversi, sì, ha dato a lui questi ha dato dei ruoli sì. Che dovevano essere esistevano dei ruoli anche prima, sì. Che dovevano essere dei ruoli, come dire, dietro le quinte, però io Stracquadagno devo dire una cosa prima di salutarla, cioè sì, lei però Magarelli lo facciamo presidente del Lazio. Presidente? Del Lazio, si vota in Lazio, Magarelli presidente del Lazio. Scusi un attimo, però lei con Magarelli con vice Fiorito al bilancio. Con tutto quello che in questo lei momento ha è trattenuto lei, diciamo in galera. Ha da fare, diciamo. Lei, con tutto quello che ha detto di Berlusconi, con tutto quello che gli rinfacceranno, ma come fa a presentarsi in campagna elettorale? Anche lei, su. Cioè, lei ha detto delle cose, Berlusconi, che sicuramente le rinfacceranno. Sì, lei dirà, lei ha detto dubbio, questo, ha detto quest'altro, ha detto questo, rimetteranno le sue litigate con quelli di Piazza Pulita o di non so che cosa. Nelle stesse condizioni. Rifarebbe direi le stesse cose, ma oggi non può mettersi il vestito tutto, del moderato nessuno... oggi non può mettersi una bellissima cravatta, fino all'altro giorno, ma perché era... vestivo male? No, vestiva benissimo. Allora. A Galevo, ma fino all'altro giorno era il Pasdaran, il difensore, il comenista di Berlusconi. No, quel comenista, no. Metteva comenista il suo corpo al servizio del presidente, sì. Era un pretoriano, sì. Sai i pretoriani, no? Sì. All'epoca. Sì. Lui dice che è Berlusconi che si è staccato da lui. Ma siccome Berlusconi che ha perso i suoi elettori... Era il primo a uscire dalla castra! Però qualcuno potrebbe dire lei è un paraguru. Cioè lei è un paraguru, cioè, ha visto Berlusconi... Infatti c'ho un sacco di vantaggi. Cioè? È probabile che non sarò neanche ricandidato, che problema. Beh, ma pure quelli là non è che stanno messi no, bene. No, perché se io avessi fatto, come dite voi, il grande il difensore fino alla morte, fino alla, uno straccio di seggio c'era. Però oggi lei si è messo un abito da moderato. Cioè oggi lei è un moderato. Un montiano. Uno dice, montiano. Stracquadagno? Come l'avete, moderato. L'ha scritto lei, non si incazza neanche messo più. L'Oden. Ma non si incazza neanche sì, d'inverno metto non si arrabbia neanche più, parla che con non voce lo mette più neanche Monti. Ma non si deve arrabbiare ormai, con chi si deve arrabbiare? Parla con voce moderatissima. Oggi sono andato a una trasmissione. Sì, con Ferrero. Lei non mi ha visto perché stava ma riposando. Ma con Ferrero dormendo io stavo arrabbiato con Ferrero, con vabbè, Ferrero d'accordo. E vabbè, con De Manzoni. Sì, quello il di Libero, perché? Di Libero perché hanno tesi stranamente coincidenti. Come cambiano i Ferrero e De Manzoni pensano la stessa cosa, no, contro l'euro. Sul fatto che la ricchezza si crea con la stampante invece che con sì. L'oro. Una volta anche lei era contro Monti. Io sono stato contro alcuni provvedimenti fiscali, ho capito, però. Non contro, io ho votato la fiducia. Vabbè, comunque all'inizio e sono stato tra quelli che aveva messo sappiamo, in discussione però... la prosecuzione della politica. Però, lei vuole ho tornare idea. E comunque... se forse fossimo sì. Arrivati a quella fiducia a cui sì, non sì. Siamo arrivati, non è detto che io avrei sto lavorando conto. Per tornare in Parlamento. Oh. Questo lo possiamo dire con grande serenità. Sto lavorando per tornare in Parlamento. Io sto lavorando per costruire un'ipotesi politica no. Della no. Quale un'ipotesi politica, per una formazione politica con cui valga la pena di tornare in Parlamento. Oh, ma siccome se non ci torno, non mi cambia la vita, anzi, per certi sì. Versi posso non fare va a pulire i cessi, come dice Sgarbi? Non ne ho necessità e posso, come dire, anche invitare guadagnerebbe, lui a guadagnerebbe a di più? Guadagnerebbe di più sì, fuori dalla politica? Sì, ah, fuori dalla politica guadagnerebbe sì, di più? Sì, perché, guardi, io ho sempre avuto attività professionali con cui ho guadagnato sì. Di più e la politica... mi ha impoverito. Sottratto no mi ha impoverito è una no, fesseria però... ha sottratto del tempo per lo sviluppo di questa attività indubbiamente perché se uno come cioè, me, con la politica dedica... lei ha perso dei soldi. Può sì. darsi, opportunità. Può darsi. Ha perso dei soldi. Ho perso più opportunità che soldi. Vabbè, che, significano non poi lo so. Che significano poi soldi. Vabbè, ma adesso lo, lei, ma non lo può dire. Sarebbe più se ricco, lei, oggi se lei più è un'impresa, ricco. Se mette in piedi un'impresa, non sa se no, certo, vabbè, assegno. Certo. Per cui non lo so, vabbè. Sarei più ricco. Quindi Silvio l'ha resa più povero, per la metà transitiva. La metà transitiva è questo. Questa è una fesseria. Detta così è una fesseria. Dico che non l'ho mai fatto per quattrini. Però non hai fatto politica per pronto a sì. tornare in Parlamento. Quindi, cari amici ascoltatori della Zanzara, sappiate se l'onorevole Giorgio Clerio vuole, guardi, sa cosa dice? Vuole tornare in Gaetano Parlamento. Gaetano Mosca delle doti di un buon politico, sì. che è dote di un buon politico farsi rieleggere, sì. non eleggere. Perché? E poi tutto dipende dal modo in cui lo fa, cioè se fa cose utili e positive per i suoi per il suo paese o no. Questo. Tutto qua. Grazie. Io siccome ne credo di non aver rubato mai una lira, di non aver mai fatto danni. Titoli del TG3. Ritengo di poterci riprovare. Grazie. Grazie a lei. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Orrore a Scampia per un'esecuzione di camorra nel cortile di una scuola materna. Ferito sotto casa, scappa verso l'asilo, lo finiscono a colpi di pistola. Vertice PDL con Berlusconi, dopo 4 ore riunione aggiornata a domani. Il Cavaliere non scioglie il nodo sulla sua candidatura a Premier. Il TAR del Lazio fissa al 3 e 4 febbraio la data per le elezioni. Per Election Day il Parlamento dovrebbe essere sciolto fra pochi giorni. Bersani, da Monti. CSM e Associazione Magistrati si dissociano da Ingroia, che aveva parlato di sentenza politica della consulta sulle telefonate tra il capo dello Stato e Mancini. 260.000 precari nella pubblica amministrazione, impossibile assumerli tutti, dice il ministro Patroni Griffi. Aumentano gli esuberi nello Stato. 100.000 pazienti ogni anno, 1 milione di prestazioni ambulatoriali, medici, infermieri e malati contro la chiusura a Roma del San Filippo Neri. E Michele Misseri cambia versione per l'ennesima volta e torna ad accusarsi dell'omicidio della nipote Sara Scazzi. L'ho uccisa con una corda, dice, e il legale rinuncia al mandato. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa. Eccoci qui, 800 24 00 24. Ma cari amici, la notizia del giorno, una delle notizie che ho visto oggi pubblicata sul Libero, è che Berlusconi nell'agosto del 2012, agosto di quest'anno, ha dato 700.000 euro, forse farà parte degli accordi laterali, al movimento della Melchiorre e di Tanoni. Signora Melchiorre era Dignana, se non ricordo male, signora sì, Melchiorre, sottosegretario alla giustizia, se non ricordo male. Per pochi mesi, sì. per pochi mesi. E dov'è fi? Una cosa, 700.000, 49.000 scipoti, 150.000 Este Bancaselli, sì. senatore sì. eletto all'estero, sì. e anche Alfano 61.000, secondo i calcoli fatti da Beis, una cosa pazzesca. Comunque, Carlo dalla provincia di Macerata. Comunque è finito caos, PDL, nulla di fatto al vertice, è finito ma il lo vertice. Sappiamo, l'abbiamo detto. Ma diciamolo ancora. Hai sentito anche il giornale radio, no? Ma diciamo, no, 19-26. Carlo, provincia di Macerata. Buonasera. Bada. Vorrei fare una riflessione sul post primario del PD. Sì, riflessione. Nel senso sì, bada. Che tutti questi voti che hanno dato al sindaco di Firenze, no? Secondo me sono una sorta di rottamatori anche loro. Perciò una, sorta di? Rottamatori, sono rottamatori come Grillo, mo che però, sono delusi nella politica. E allora? E allora penso che tutti questi voti, molti andranno a Grillo. Beh, questa è la sua previsione, caro, caro no, Carlo. Cioè, lei dice, molti voti di Renzi andranno poi a Grillo. Sì, perché il vero elettore di sinistra, no, secondo me, sì. si identifica in Bersani, secondo me. Mentre il movimento di Renzi sì. è un, tra virgolette, un rivoluzionario. Di politica, non so, con la politica attuale, con la vecchia. Va bene, politica, grazie non... Carlo, grazie. Angelo da Lucca, buonasera. Sì, buonasera, senta. Dica. Io vorrei che prima di parlare male di qualcuno, dategli la possibilità di dimostrare quello che vale. Di chi parla lei? Di chi parla, Angelo? Movimento 5 Stelle. E chi parla male? Chi parla male del Movimento 5 Stelle? Voi, parlate sempre male del Movimento Ma che abbiamo detto sul Movimento 5 Stelle? Date voce a tutti i peggio politici che abbiamo. E poi siete sempre di male del Movimento 5 Stelle e non gli date ma guardi modo che noi stiamo parlare, guardi noi stiamo prendendo in giro allegramente queste follie che escono fuori, questi personaggi tra il grottesco e il ridicolo che escono fuori dalle parlamentarie. Sarà consentito o no? È consentito, sì. Dico, ma per esempio Ma questi danni però non li hanno fatti. Ma chi ha detto che hanno fatto danni? Per conto loro. Ma chi ha detto che hanno fatto danni? Non sto mica dicendo. Ma Angelo, ma non è che l'unico criterio è fare danni o non fare danni. Io guardo una cosa, la trovo ridicola e lo dico se è ancora consentito. Se non è consentito, non lo dirò più, caro Angelo. È o non ridicolo? Sono o non ridicoli alcuni personaggi che escono fuori da queste parlamentari dei 5 Stelle? Sì, sono ridicoli. E noi lo diciamo. D'altra parte, se lo fa Crozza, facciamo sentire un pezzo di Crozza di ieri. Otto. A Badarò. L'ha fatto pure Crozza, cioè in maniera superba, meravigliosa. Sentiamo. Oh, cari ascoltatori della serie I Duelli nei Talk Show, la nostra Laura Ravetto si è scontrata con Barbacetto. Ah, Barbacetto del fatto quotidiano, fatto. Certo. Non so dove, credo stamattina Agora. Forse non so dove. Ieri notte a Omnibus. Agora, Omnibus forse ieri a Omnibus Night. Ma non è importante. A Omnibus Night. Vabbè. Sulla 7 a Omnibus Night. Chi se ne frega. Chiedo scusa, mi sono incantato. No, è che stai facendo Omnibus la Night. Solita leccatina ai tuoi datori di lavoro. Night. A uno dei tuoi datori di lavoro. Ravetto, Barbacetto, e sentite cosa dice a un certo punto il signor Barbacetto. Berlusconi sta tenendo un po'. Tanto in guardi, io sono convinta che Berlusconi vorrà una cosa sola che voglio anch'io, e cioè farci il bunga bunga. No, vabbè, guardi, no. Ecco, dopo questa frase, Barbacetto, no. Cos'è? Questo potrei querelarlo. Era una battuta, però non è carina con una sì. Potrei querelarlo. No, donna, comunque, le chiedo scusa. Le chiedo scusa. Accetto le era una battuta riferita a Berlusconi, non a lei. Non a lei, che non c'entra nulla con quelle cose, le chiedo scusa. Vabbè, al di là di queste argomentazioni di alta e raffinata politica internazionale, vabbè, sono di Berlusconi, non è colpa mia, era lui che faceva il bunga bunga, non io. C'è la statua del cavallo di Zavò. Politica internazionale, sì, era la nipote di Mubarak, più internazionale di così, scusa, onorevole Ravetto. Allora, c'è un altro dei 5 Stelle, però, che ma ce ne sono tantissimi. È una specie di droga, come dice Zoro, sono diventati. Tra l'altro questo parla di droga, si chiama Bianchi. Sentitelo, vi prego, sentitelo. Ciao Bianchi. Come sindaco ho reso edificabile il 75% del territorio improduttivo e boschivo di Luno, portando, ecco, il 17% di un 4%, pensate un po', ai livelli di un 10% nel quinquennio, e questi sono numeri. E intendo continuare con i miei proponimenti come sindaco: un'edilizia sfrontata, un mega mercato del turista e soprattutto l'innalzamento dell'età dei drogati. Come sindaco ho anche reso possibile l'aumento della tossicodipendenza nei ceti meno abbienti, soprattutto negli anziani. 800 24 00 24. Andiamo a Ancona. Andrea, buonasera. Ciao a tutti, è un piacere sentirvi. Giusto una cosa, ma un'ora di straguadagno. A parte che non è un'ora, ma sono 20 minuti se va a vedere. Comunque poi... io l'ho iniziato a sentire alle 6:30, cioè un'ora di straguadagno, ma mettete un'ora di pubblicità, cioè veramente, ragazzi, è... Perché? Ma perché non si può sentire dopo una giornata di lavoro un'ora di straguadagno? Ma che un'ora su... Capisco io che è autore di master di satira, come non si arriva a fine mese con lo stipendio da parlamentare, o non, oppure adesso la verosimilità di Rubi, nipote di Mubarak, che roba che se la mette... Infatti in bocca l'ha sentito tutto, però. Vabbè, sì, roba che se la mette in bocca a Guzzanti. Vengono fuori degli sketch da 1 milione di click su YouTube. Però allora... ragazzi, cioè, ma non si può sentire un'ora straguadagno. Ma non è un'ora, 20 minuti, su, sveglia. Vabbè, mi è sembrato un'ora, mi è sembrato. Ma dov'è lei? Dove si trovava? Nel traffico lì, poverino. No, ero nel traffico, adesso ho accostato. Anche questo è chiaro, sì, quando si ascolta straguadagno bisogna sempre accostare. Effettivamente. Su questo ha ragione, sì. Grazie Andrea. Luigi da Vicenza. Luigi, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Buonasera. Senta, io volevo fare una scommessa con lei e con Parenzo, e se vinco vi voglio a cena a casa mia. No, non esageriamo, facciamo... adesso. Vabbè, io vi invito e facciamo una diretta della Scherzo. Zanzara. Sì. Allora, secondo me, io non ci credo che lo smisurato ego del sindaco di Firenze sia ridimensionato, nel senso che sono finite le primarie, adesso ci sono tanti buoni propositi di aiutare il Partito Democratico, però a me non lascia tranquillo Berlusconi, nel senso che ha rimandato la comparsa in pubblico, l'annuncio della discesa in campo, che immagino sia imminente e sicuramente arriverà. Credo che nel frattempo però stia cercando Berlusconi di contattare Renzi, e qua ci vorrebbe lo sketch di Parenzo. Ma chi l'ha detta? Chi l'ha detta questa cosa? Luigi è vecchia, no. Renzi contattato da Berlusconi, Renzi che in realtà si candiderà nel PDL, si candiderà per il centrodestra, è vecchia, morta, finita. Lo so, Volpe, Pasini e tutto quanto, mi ricordo perfettamente, però io credo che Berlusconi in questo momento metterà sicuramente la sua faccia per candidarsi. E allora? Però non vorrei che poi in primavera Renzi in qualche modo, con un suo partito, però affiliato comunque a una coalizione... parlando, ma quale suo partito? Ma io sono convinto di questo. Che farà un partito fuori da PDL per attrarre voti dal centrodestra, insomma, addirittura si candiderà contro il PD. E torneremo a votare Bersani, a scegliere fra Bersani e Renzi. A questo punto voglio anche indietro i miei 2 euro che ho speso per le primarie, nel senso che torneremo a avere una scelta fra Bersani e Va bene, e grazie. Renzi. Giuseppe da Pordenone, buonasera. Buonasera. Vada. No, volevo sapere se Berlusconi va in pensione o no. Che cazzo fa quello lì, scusi, non lo so. Beh, lei ha ragione. Cioè, detto con linguaggio schietto, diciamo. Detto con linguaggio schietto, qui non si capisce una fava, no? No, non si capisce niente, non si sa cosa fa, perché anche oggi dicono che è stata una riunione, ma non hanno detto niente. Quello che mi fa pena è Alfano, che non sa nemmeno lui cosa più dire, penso. Tutto qui, no? Da dove chiama questo signore? Questo da Pordenone, politologo. Anzi, in questo momento sono dentro la base di Aviano, perché sono un ingegnere. Mi hanno chiamato. Ah, dentro la base militare di Aviano. Che succede dentro la base militare? Tra poco si sente gli aerei che stanno facendo il vento. E dove andiamo a bombardare, amico mio, adesso? No, Aviano. Nessun bombardamento, fanno solo controlli con l'audio. Ma lei che fa? L'ingegnere, cioè l'ingegnere di aerei? Sì, no, li metto a posto io. Ah, mette a posto gli aerei ad Aviano. E adesso, speriamo che quell'aereo non parta, perché lei ha il telefono con noi, quindi non ha messo a posto un cazzo, come si direbbe in gergo. Sì, è vero, con transita. No, sono dentro la base, ma dato che il transito è lungo circa 20 km, perché hanno cambiato tutto il modo, perché è molto ingrandita adesso la base, no? E bisogna seguire un percorso ben preciso, ben coordinato. Cui si gira quindi lei sta telefonando in orario di lavoro, comunque, questo lo possiamo dire agli amici di Aviano. No, orario, è che mi hanno chiamato tutto qua. Grazie Giuseppe, lei è incazzato perché Berlusconi non si decide mai, e ha ragione, cioè siamo un'incertezza assoluta lì, un caos totale su tutto, sulla legge elettorale, sulla data delle elezioni, sulla candidatura, sulla rottura con Alfano. Solamente la nostra amica Ravetto, mandatemela da Milano, crede che tra Berlusconi e Alfano non ci siano crepe. Signora Ravetto, dove? Amica mia, dove è l'unica a sostenere una tesi del genere, che tra Berlusconi e Alfano non ci sono divisioni. Sentiamo. Non sì, ci figli, sono. Guardi, sono una di quelle che ha detto che, per esempio, le dicotomie Berlusconi e Alfano non sono mai esistite. Vedrà che ne avrà presto conferma. Beh, l'unica conferma potrebbe essere quella che Alfano a un certo punto va con la nuova formazione politica di Berlusconi. Sì. Con Berlusconi. Sergio D'Ancona. Buonasera. Volevo riflettere con voi un attimino sull'intervista rilasciata al dottor Ingroia oggi su vari quotidiani, no? Sì. Non ritenete che sia grave il fatto che un magistrato dica che le che è una sentenza politica quella della... No, non solo che quella è una sentenza politica, vabbè, ma che le sentenze spesso siano politicizzate e risentano del momento, del clima politico che si vive nel... Le sentenze della Corte, lei dice? No, lui dice le sentenze. Le sentenze della Corte Costituzionale, il sottotesto. Cioè, la Corte Costituzionale, quando diciamo redige una sentenza, sembra di aver letto, lo fa anche sentendo lo spirito del tempo. Non è l'unico che lo sostiene, lo sostiene il professor Parisi. Comunque lui parla, lo sostengono in tanti. Lui parla della Pannella. Lui parla della sentenza di adesso, che certo, è politicizzata. Per me è grave che un magistrato lo dica. Dopodiché, poi ormai chi se ne frega di parlare dell'esternazione di Ingroia. Quello è, parla di tutto. Era inevitabile che parlasse anche. Diciamo che una sentenza contraria a Napolitano della Corte avrebbe messo in crisi un sistema istituzionale. Questo stiamo parlando di Ingroia adesso. Appunto. Non c'entra nulla. Io siccome do ragione a Ingroia in questo, ritengo che una sentenza diversa della Corte avrebbe messo in crisi il sistema istituzionale, perché sarebbero state pubblicate... L'ascoltatore sta parlando di un'altra cosa, sta dicendo che il fatto che Ingroia parli di una sentenza politica è una cosa molto grave, giusto Sergio? Sì, certo, questa è la base del discorso, no? Poi lui non si riferisce solo a questa sentenza, ma fa anche riferimento a sentenze che sì, però guardi Sergio, io sono anche d'accordo con lei. Il problema è che non mi sembra una novità, cioè l'ingroia parlante anche su questa sentenza. Ha scritto da poco un libro che sta suscitando grandi proteste. Io so. Tra gli elettori del centrodestra, una raccolta di firme addirittura del giornale. Oggi Di Pietro ha promosso un'altra raccolta di firme invece a sostegno della libertà di espressione di Ingroia, come se non ne avesse già tante Ingroia di libertà di espressione. Però mettiamo le cose a posto. Oggi Ingroia non è più il PM che segue l'inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia. Te credo, sei andato in Guatemala. È andato in Guatemala. Sì. Quindi essendo andato in Guatemala può scrivere tutti i libri. Ma lo faceva lo stesso prima, anche quando era PM. È uscito, ma non dire stupidaggini, dai, su. Di andarsene in, aveva già deciso di andarsene in Guatemala, quindi questa è la cosa. Siamo qui, è con noi Gianfranco Miccichè al freddo. Perché al freddo, Miccichè? Come fa? Perché c'è caldo per adesso. Dov'è? C'è caldo dove? Perché sono fuori, perché tutti non scontentarvi e di accontentarmi, perché mi fa piacere essere sempre Ma fuori dove? E per cui mi sono fermato con la macchina. Ma dove? E sono sceso e sto partì a Roma. Ma no, ma lei deve stare non con la macchina, deve stare dentro la macchina, non è che deve stare fuori. Vabbè, non vuole far sentire quello che dice. Bravo, hai visto? Ah, ecco quella è la cosa. Scusi un attimo, Miccichè, ma ha visto che abbiamo fatto un casino col signor Crocetto, col signor Zichichi? Siamo riusciti quasi a far dimettere un assessore. Cioè, che è successo? Ma la storia del nucleare. Non ha visto nulla. La storia del nucleare. Nucleare tutta la Sicilia vuol mettere il professor Zichichi. Ma il nucleare, io sono d'accordo con Zichichi, figurati. Bravo, Miccichè, finalmente uno che le dice chiaro. Dia manforte allora. Anche io vorrei la Sicilia piena di centrali nucleari, lo dica. No, piena, ne basta uno. Piena, non esageriamo. E dove la metterebbe? Vicino a... Dove la metterebbe la centrale nucleare? La bella centrale, dove la metterebbe? Bella centrale nucleare, cioè tutto il centro della Sicilia è desertificato. Per cui... No, ma deve essere vicino, le dico questo, tecnicamente, le centrali nucleari devono essere poste vicino al mare. Poi che c'entra desertificato? Non nel centro, no? Che c'entra desertificato? Oddio mio, qualsiasi parte della Sicilia è proprio lontana dal mare, non è. Ho capito, però vanno messe proprio sul mare le centrali. Cioè, quelle che ci sono in Francia, dove sono vicino al mare. Ma infatti, Parenzo non lo sa. No, no, non devono lo essere vicino al mare. Ma chi dite? Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero. In Italia era una volta a Trino Vercellese. Quella ha ragione lui. Quelle che servono per il coso, per la macchina alluviale, quello per abbronzare, devono stare vicino al mare. Amici. Comunque, lei non è contrario, la metterebbe una bella centrale in Sicilia. Dove? Io, guardi. Se io per primo non avessi votato contro il nucleare, forse saremmo meglio in Italia. Anche lei votò contro il nucleare? Beh, ma all'epoca... Anche io votai contro il nucleare, però poi mi sono... Ma perché all'epoca era di sinistra? Era di sinistra, lei. Molto. Era di sinistra, ora non lo so se lo sono. Extra parlamentare. Adesso come si definisce? Di sinistra, di destra, di centro, di nulla? Di sud. Ma sta storia dell'arancione, che le hanno fottuto l'arancione? Ma che mi hanno fottuto? Chi? Ingroia? Di nuovo Ingroia? L'avevo sentito qualche parlavate qualche minuto fa. Ingroia e De Magistris le hanno rubato l'arancione. No, guarda, si prendono tutti i colori che vogliono, l'arancione la lasciano stare. E se vogliono invece utilizzare l'arancione per questo movimento, che facciamo? Non glielo posso vietare perché non abbiamo il... Appunto, non è che avete il copyright. Del colore, questo è poco ma sicuro. Noi con precisione siamo Pantone 21, vediamo cosa mettono loro. Voi siete? Pantone 21. Che è una un tipo di arancione. Un tipo di arancione. Pantone. Vabbè, comunque lei le cose in stampa, c'è il Pantone, sai cos'è? Sì, il Pantone? Sì, come no? Non lo sappiamo. Non è che siamo ignoranti proprio come bestie. Totalmente. Quindi Pantone 21, se volevi sapere cos'è, vuol dire segnalare. Non è che li volete portare in tribunale, no, per questa storia d'arancione, no. Assolutamente no. Con Ingroia, io volto in tribunale. No, che okay. Ingroia e De Magistris. Tra De Magistris e Ingroia mi ci devono portare loro, perché li posso portare io. Senta, ma non le fa un po' pena Berlusconi così indeciso nel caos del PDL, questa no, candidatura? Berlusconi non è uno che fa pena mai, perché comunque una delle persone comunque più potenti nel mondo ha fatto delle scelte e ne sta facendo delle altre. Ho io capito. Personalmente gli suggerirei di andare da solo, perché a me fa pena vederlo con questo PDL, questo sì. Cioè di andare da solo, di andarsene dal PDL. Pena, non è un problema di pena, è un problema di squalificazione. Cioè questo PDL, tutti quelli che ha creato lui d'altra parte, lo squalificano ormai. Non tutti quelli che ha creato lui, questo PDL lui non li ha creati tutti, perché quelli di Alleanza Nazionale non li ha creati, no, lui. No, quello no, è vero. E sono, voglio dire, credo che il suo problema maggiore sia con questo. Ma gli dia un consiglio, che deve fare? Lei che gli ha dati tanti ormai da... Candidarsi da solo, lasci stare il PDL, faccia un'altra cosa e si candidi lui. Oh, l'uomo del 61-0 dice a Berlusconi si candidi da solo, ma è quello che farà Berlusconi, ormai il dato, sono convinto io, ormai il dato è tratto. Ma come sono lo chiamerà questo nome? Lei che è un grande inventore dei nomi, è passato da Forza Sud a Grande Sud. Io da grande, chiamando Grande Sud gli posso suggerire Grande Italia. Ah, grande, così fate un'altra volta grande. L'alleanza. No, lo so. Grande Italia, un'altra grande volta sud. Con Berlusconi, un'altra volta con Berlusconi, va bene, stesso film. No, ormai il mio problema è quello che fanno, non chi. La persona con Berlusconi, io non ho motivi di essere contrario alla persona. No, ma quello poi no, ho capito, che... certo. Ma ormai è finita politicamente, lei lo sa anche meglio di me, su, ormai è... Non so, voi quando pensate, non so se voi siete finiti come radiofonisti, può essere anche questo. Non si sa, io, se io sono più finito di lui, non lo so. Questo non è anche lei sulla strada buona, non è questo. Dopo quello che è successo, in Sicilia, è sulla strada buona. Perché? È stata una bella botta. Quella. Sei ripreso ancora da quella botta della Sicilia o no? La botta della Sicilia qual è stata? Beh, come no? Beh, dai, una bella botta, non eravamo benissimo. No, botta, no, assolutamente no. Noi avevamo una coalizione che non poteva che fare questo tipo di risultato, e per questo ci siamo candidati. Poi io speravo in qualcosa di meglio, ma certamente non la posso considerare una botta. Io speravo in qualcosa di più, ma quello era il risultato che potevamo fare. Diamo un voto a crocetta tra Zichichi e Battiato. Diamo un voto a crocetta, questa giunta creativa. Voto di marketing 9 per adesso. Ah, di marketing 9, E voto di politica non ha fatto niente ancora, per cui vedremo. Vabbè, quello ormai inizia. Però marketing, però di marketing non ha sbagliato, secondo me c'è una grande operazione di marketing, secondo me. Che non serve a nulla Battiato, che non serve a nulla qualcun altro di questo X Factor che ha fatto, un altro di questi dei famosi che ha messo in piedi, vabbè, è così. Sicuro. Ma poi vedremo. Ma io ho un'idea, lo sa, amici, che io non si può decidere prima come no, finirà, certo. La partita. Almeno sono tutte persone per bene, amici, che almeno sono tutte persone per bene, tutte per vabbè, bene. Ma che c'entra quello? Non ho dubbi, anche io lo so, non sono stato chiamato. Senza però, bisogno scusi, di soldi. Michiche, scusi un attimo, la mia idea lo sa qual è? Che in realtà Crocetta vorrebbe fare tutto lui. E dunque mette queste persone qui, alcune inesperte, altri devo che non dire ci sa. Che è un'idea che abbiamo in tanti. Cioè, alla fine lui vorrebbe fare l'assessore al turismo, l'assessore beni culturali. Non c'è dubbio che con questo governo che ha creato il presidente e 12 assessori, c'era tutti loro. Appunto, cioè lui ha non solo la presidenza, ma pure un sacco di assessorati. Ecco sì. Cioè, non c'è uno. Questo è in dubbio, questo è sicuro. Lo vedi che ogni tanto capisco qualcosa pure io? Però vabbè, ogni tanto. Era Parenzo che ha indovinato questa cosa. No, io l'ho detta. Io l'ho ma gliel'ho scritta, ma io gliel'ho scritta. Ma l'ha scritta su un fogliettino. Poi ho capito, ma tu lo leggi l'altro scritto. Fra poco abbiamo una grande sorpresa per lei, Michiche, una grandissima un ritorno alla sua gioventù. Non c'è nessuna sorpresa perché me l'avete detto quando avete chiamato, per cui lo so già. Ma no, che ne sa lei, un ritorno alla sua gioventù, quando lei ancora era un compagno, caro Michiche. Quando ero giovane, lascia stare cos'ero. No. Ero giovane. Era un compagno, si fumava le canne, suonava la chitarra, era un compagno, si faceva le canne, suonava la chitarra. E faceva l'amore. Zero non ho mai saputo suonare, manco tenere le mani. Quello zero. Però mi piacevano quelli che non sapevano suonare. Comunque il consiglio a Berlusconi è quello di andare per i fatti suoi, questo non c'è dubbio. Fatti suoi, fare un partito suo, di nuovo Forza Italia. È il consiglio ma, che ma lei non vuole invece non vuole accreditarsi come l'uomo di Montezemolo in Sicilia? Non ho capito niente. Lei non si vuole accreditare come l'uomo di Montezemolo in Sicilia? Beh no, ma questo è il Grande Sud insieme alle forze, magari vuole... è il Grande Sud, il mio partito. Sì, d'accordo. Sì, magari però... fare un accordo con Montezemolo. Essere dire. Guarda, noi stiamo guardando. Dove state guardando? In questo momento che è un disastro per la politica. Sì, stiamo cercando di capire le proposte. Mi sembra che nessuno le stia facendo. Per cui ora ne faremo qualcuna noi e vedremo. Però adesso dopo Berlusconi lei si sente un po' più vicino al centro Montezemolo? Casi. Sì, immagino di sì o no? Ma lui non so se che cosa è un partito, non è chiaro ancora. Non è chiaro, eh? No. Una volta lei che disse di Montezemolo in quel famoso video eccetera, disse una cosa strepitosa. Che mi faceva gli scherzi telefonici. E com'è che faceva? Mi faceva gli scherzi. E come faceva? Ma è possibile che Montezemolo le faceva gli scherzi? Io non ci credo, non ci ho mai creduto a questa cosa. Glielo giuro, glielo chiedo a lui. Ma no, ma non è possibile. Un uomo così serio. Cioè, la chiamava direttamente. Perché sicuramente nessuno può negare che sia una persona di spirito e simpatica. Questo non lo può negare nessuno. No, ma come faceva? Scusi, Michiche, cioè, chiamava... Mentre io ero... sì, sempre incazzato con tutti quelli di Repubblica. Sì. Un giorno lui, che sa, lui sapeva di questa mia avversione, sì, nei confronti dei giornalisti di Repubblica, mi ha chiamato e detto, un giorno sono tal detale di Repubblica, ho detto no guardi non parlo con voi, e ho chiuso, ho richiamato dicendo, mi scusi, non sarebbe corretto che lei parlasse con me, siamo un giornale serio, e sa, mi ha tenuto insomma un quarto d'ora a dire minchiate per poi dirmi sono Luca scemo che sei caduto in questo stesso. Cioè faceva finta di essere un cronista di Repubblica, ma lei è così intimo in pieno, e lui è stato molto spiritoso. Ma è così intimo di Berlusconi, di Montezemolo, lei? Siamo intimi, però si vede che lui si fa anche a quelli che non sono intimi. Cioè, agli, sentite... agli altri che sono uomini di spirito li fa. No, io ma mi è sento uno di spirito, cioè, come lui, per cui... Sì, no, ma sono due persone che mi sembrano molto diverse, no? Sì. Montezemolo, tutte le... Cioè, lui è uno po'... Insomma, tutte le canti come sono, no, no, però sa come... Però è uno più ruspato. Dei personaggi miti. No, cioè, ma scusi, ma... dici che... No, no, ma non sto dicendo che lei è un cafone, sto dicendo che lei... No, sei due persone diverse, lui è talmente per bene, con lei non vedo... Ma no, ma che c'entra? Ma non volevo dire quello. Ma che siete... Guarda, ma si figuri, non ne abbiamo preso. Ma no, con tutti... ma no, con tutti quei capelli, ma no, ma amici, non si incazzi, con tutti quei capelli così sistemati, perfetti, lei un po' tutto, no? Grazie a Dio sta ridendo, non mi incazzo mai. Allora, fra poco un grande cantante. Un con duo, noi. Faremo un duo. Grande... Ho letto l'altro giorno, ho letto l'altro giorno una cosa, non mi ricordo bene chi, che citava una canzone sulla Costituzione. E come no? Si è messo a cantare la Costituzione, credo. La Costituzione. C'è Shapiro, certo. Sì, come no? Italiano o inglese? No, italiano. Siamo come lei, siamo come lei. Eccoci qui con Gianfranco Miccichè, deputato ancora. Avete mandato tutta la pubblicità che avevate in magazzino tanto per farmi morire di freddo. Ma no, ma è lei che vuole morire di freddo? Una cosa così pubblicitaria così lunga mai vista. Ma noi ci pagano un sacco di soldi, ma ha capito? Male. Le aziende inseguono. Per avere tutte queste pubblicità le darete gratis. Ma che gratis? Ma che lei non capisce come funziona il mondo? Ma qui ci inseguono per più avere pubblicità, c'è scusi, più vuol dire mi dica la verità. Uno oggi per votare PDL che deve essere una specie di drogato, un pazzo, per votare PDL oggi che devi essere? Ma malato, no, di me. No, devi essere buono, non lo so, non ne ho idea. Ubriaco. Non è detto che uno sia ubriaco, non lo so, non la trovo una motivazione per votare PDL. Appunto, uno per votare PDL deve essere mezzo ubriaco, diciamo. Non è che perché non la trovo io, non la trovi in altri. Vabbè, però non molto in sé, diciamo così, non molto in sé, così lo possiamo dire. Cioè. No, non è vero, può essere che siamo noi, non molto in noi. E quindi non lo vogliamo votare, può essere che quelli invece furbi e intelligenti lo votano. Io sono convinto al contrario, però vabbè. Può essere, io sono un liberale. Comunque siamo, amici che siamo alla lei è un grande liberale, e libertino. Molto. Tutto, liberista, libertino. Rivendichi il suo libertinismo anche sessuale. Lo dica chiaramente, ho fatto l'amore con migliaia di donne, lo dica. Chi l'ha detto? No, lei, lo dica, ho fatto l'amore con migliaia di donne. Ma quando mai, magari, assolutamente no. Mi piace moltissimo la gnocca, amici, che lei dovrebbe come, dire. Come? Oddio mio, ma che cominciamo a trascendere, cominciamo ad andare proprio sul basso più infimo. Beh, noi siamo un po' basso e alto. Ragazzi, siete ancora giovani, io sono quasi 60 anni. Perché non si trova, ha chiuso l'azienda. Se no, non sarebbe considerato di Shell Shapiro. Shell Shapiro, eccolo qui, ciao Shell! Ciao a tutti, buonasera. Grande Shell Shapiro, ciao. È la pioggia. Sereno. Ritorna lo conosce il signor Miccichè, Shapiro? No, come mi deve conoscere? No, è che ne so, così, Shapiro lo conosce Miccichè? Beh sì, di fama. Allora, deve sapere, Shapiro, che il signor Miccichè è stato berlusconiano di ferro, l'uomo del 61-0 in Sicilia, adesso ricordo, è un ricordo. Po' meno berlusconiano, però in gioventù... Era molto comunista. Era molto di sinistra. Extra parlamentare. Ed è un suo ammiratore sconfinato, cioè proprio per lei stravede. Era appassionato dei rocks. Allora, Shell Shapiro si trova in questo momento a Loano... Se non sbaglio, a Loano. Esattamente. Dove è Loano? Ma come, non sai neanche dove è Loano? In Liguria, credo. Loano è lontano dalla Sicilia, è di fianco a Savona e Liguria. A Benga, insomma, Liguria. Liguria, sì. Allora, Shell, ma che cosa stai facendo con la Costituzione? Prima pure Miccichese lo chiedeva, con la storia della Costituzione. Allora, spiegaci un po'. Ho fatto questa specie di manifesto sociopolitico. Sì. Pure tu. Sì, ma Sapino, posso dire una cosa? Lei è in Italia da 50 anni, parli italiano. Prego? Parli italiano, dico. Parli italiano, ma in Italia da 50 anni, cazzo. Ancora possibile ancora parlare esattamente come parlo lei, io sotto quella L'ideologia ci dividerà, ma forse anche la buona maniera. Bravo, ma non gli ha detto bravissimo. Non volevo essere scortese. Ma ha ragione Shapiro. Ma non ha detto niente. Non volevo essere scortese, lo dicevo come battuta. Ha fatto una battuta, Shapiro, non se la prende, proprio lei se la prende, ha fatto sì, una battuta, vabbè. Su. Ma ragazzi, la battuta su come parlo l'italiano, qualcosa di nuovo però. No? Vabbè, ho capito, Shapiro. È stupendo, Shapiro. Io questo... è la prima volta che le parlo, per cui... appunto, adesso, ma non mi faccia difendere... Ci eravamo già parlati, in verità. Comunque, guardi, Shapiro, alla fine Michigan un po' c'ha ragione, è 50 anni che sta in Italia, dovrebbe parlare un po' meglio italiano. No, ma lui parla... Io parlo benissimo l'italiano. Ho un accento inglese, certo. Però parlo benissimo. Vabbè, ho capito che è un po'... Altrimenti non mi permetterei di cercare di toccare la Costituzione italiana. Assolutamente. Lui canta in italiano. Scusi, Shapiro, però facciamo qualche canzone che Michiche può che riconosce. Per esempio, possiamo fare Bisogna saper perdere al numero uno, no Michiche, giusto? Ma tutte le conosco tutte. Allora, Shapiro, Bisogna saper perdere, attacchiamo con Bisogna saper perdere. Com'è che fa? Bisogna suonarlo? Beh sì, se ce la fai, proviamo, sì, grande Shell. Se ce la fai. Okay, io faccio sorridendo tristemente, dopodiché, bisogna assolutamente che in qualche modo parliamo un attimo di 11, che è questa cosa sulla Costituzione. Sì, poi qualcosa diciamo sulla Costituzione. Qualcosa diciamo. Qualche cosa di della Costituzione, a me non frega niente. Sulla Costituzione, perché Cruciani è insensibile alla Costituzione, signor Cruciani. Comunque, invece è importantissimo declamarli. Tutti gli articoli. Parliamo della Costituzione, è meglio che non cantare. Parliamo della Costituzione. No, ma che Costituzione? Shapiro, allora facciamo Bisogna saper perdere. Su. Non mi sento, quindi sono messo. Ma che è successo? Perché si è spostato? Si è messo agli strumenti, veramente. No, non si aspetta, sente vedrai niente, che ora Shapiro. Si sente, vedrai. Dio diami se le vuole bene a me. Capita ogni giorno quello che è successo a noi. Bisogna saper perdere. Non sempre bisogna saper perdere. Ma non si sente nulla, dai. Sempre si può vincere, ma allora cosa vuoi? Quante volte lo sai, si piange d'amore, vedere, ma piangere per tutti i madre mia la colpa, se non vuole dirti sì. Bisogna saper perdere. Vai Gianfranco! Che c'è? Sempre si può vincere, e allora cosa vuoi? Quante volte lo sai, si piange d'amore. Com'è che fa? Adesso vi sento di nuovo. C'è sempre un giorno di sole. No, per tutti! Ma che stai facendo? Che volevo che lei cantasse. Stava cantando. Allora, facciamo l'inciso insieme. Vai. Quante volte lo sai, si piange d'amore. Ma io non sento niente, non so dove sei. Sento ma per tutti c'è sempre un giorno di sole. Ora la Costituzione. Ecco. Vabbè, non si è capito niente, niente, eri troppo lontano, Shell, eri troppo lontano. Spiega. Aspetta, che è successo, Shell? Sto cantando dentro un iPhone, quindi dentro un iPhone. Quanto difficile. Vabbè. A questo punto posso dire in giro di aver fatto un concerto con Shell Shapiro. Ma sì, lo sì, puoi dire. Lo può dire. Assolutamente. Vabbè, che cos'è sta cosa dell'11? Shell, che cos'è sta cosa dell'11? Prego. Che cos'è sta cosa dell'11? Guarda, è un momento di serietà, perché sono i primi 11 articoli della Costituzione, perché nessuno in Italia conosce la i primi 11 articoli, io non li conosco. Tanto meno i ragazzi. Allora, bravo. È inutile che noi speriamo che i nostri ragazzi si appassionino, si interessino della politica o della società, se non conoscono. E come li hai cantati, Shapiro, li ho messi in una forma, diciamo, manifesto di anche rock, se vuoi. Sta arrivando poi lunedì un video bellissimo di Marco Risi che accompagna questa cosa. Ma forse la cosa migliore sarebbe Cruciani, se tu li facessi sentire, non so, 30 secondi di questa cosa. Ah, di questa cosa degli 11, ma ce li abbiamo a Milano, gli 11? Ce l'abbiamo a Milano? Proprio di sì. Ce l'abbiamo, mandiamo. Sentiamo. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo, cioè noi. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nella formazione sociale. Articolo 3. Vabbè, ho capito tutto. Che meraviglia, bravo Shell, tutto. Bravo. Bravo Shell. Dove si compra questo? Dove si sente? Dove si fa? Si troverà dal lunedì o martedì prossimo su iTunes. Capito? Vabbè. Vi saluto tutti e due, avete rotto le scatole. Ciao! Ma ciao. È di ciao, un cinismo. Shell. Ciao Shell. È di un cinismo, bravo. Io ho anche suonato la canzone. No, ma lui è così, io Shell. Scherzo. Lui è rude, ma in realtà lo ascolto da troppi anni. Sto scherzando, ti abbraccio. In realtà ti vuole bene. Ciao Shell. Michiche, dove la mettiamo? Dove la mettiamo la centrale nucleare in Sicilia? Dove la mettiamo? Il posto lo troviamo. No, ma dove? Dove la metteresti? Ma che ne so? Ci sono tanti spazi dove mettere. A Mondello. Tanto non la mettono, per cui proprio non c'è. No, ma che ne so, al centro o sulla costa? Al centro. Al centro. Al centro dove esattamente? Di nuovo. Ad Erice, su Erice, bellissimo. Erice non c'entra, non è al centro Erice. Sopra, dove? No, che Erice, no, che Erice. Dove la vuoi mettere? Al centro, ciao. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio. Eccoci, giardino. Antonio, provincia di Siracusa. Buonasera, dopo questo momento agghiacciante con Shapiro che non si sentiva nulla e Michiche che gli andava sopra la voce. Abbandoniamo questo horror e andiamo ad Antonio. Horror. Il povero Shapiro. Il mio giudizio è horror. Antonio dalla provincia di Siracusa. Buonasera. Un varietà. Sono rimasto stupendo, anche calmo. Insomma, perché passate da Stracquadanio a Michiche, a Scienziati, alla regione Sicilia, insomma, un varietà stupendo. Allora? No, niente, io ieri sera sentivo che parlavate di un cantautore, così si spacciava, insomma, che ha scritto degli inni per gruppi politici. Sì. E poi è stato un po' sincero a dirti la verità, caro Cruciani, quanto l'hai chiesto, ma l'hai scritto proprio tu i testi. E insomma lasciava intravedere che lui ne ha fatto un po' gli arrangiamenti, non l'autore. Mentre prima tu dicevi alla radio, ma chi ha scritto l'inno di Grillo? Giusto? Ieri sera. Allora, sì. io avevo scritto un quaderno dedicato a Comunione e Liberazione che avevo conosciuto a Rimini negli anni 80. Non ho capito niente, scusa. Cos'è che ha fatto? Sì, no, ieri sera parlavi tu dei testi politici, no? Di inni. Sì, ma allora? Sì, il testo di Grillo era una mia canzone scritta per Comunione e Liberazione, era un quaderno scritto su argomenti di Comunione e Liberazione. Non ho capito nulla, scusi. Antonio, lei ha scritto dei testi? Sì. Perché sono finiti a Casareccio e Grillo. Ma che ne sa lei che sono finiti a Casareccio e Grillo sti testi? No, perché poi c'è un'indagine in corso ancora, insomma, e sono finite altre cose, non solo quello là. Cioè, scusi un attimo, questi testi di che cosa? Di canzoni o di altre cose? Erano pagine varie, perché non è che scrivo solo canzonette, scrivo anche argomenti politici. Chi ha rubato? Dei ladri le hanno rubato questi sì, scritti? Sì, esattamente, un conoscente mio, un piccolo editore, adesso c'è anche un processo in corso. Cioè, comunque, un piccolo editore scritto. E poi come sono finiti a Grillo, scusi? Che questo anarchico l'ha venduto facendo delle piccole associazioni, spacciandosi come grande editore, come grande venditore e manager di queste cose. E poi io non ne sapevo nulla. C'è un'indagine in corso addirittura all'inchiesta già me l'hanno detto che erano finite a Casaleggio prima ancora che uscivano. Cioè sono finite a Casaleggio queste scritte, come sono stati utilizzati da Casaleggio? E sono stati utilizzati in parte tagliate, perché quello appartengono a un quaderno che io avevo dedicato a Comunione e Liberazione, mi ispirava un ministro di allora che parlava dell'Italia che era lunga e stretta, e questo qui era un po' delfino, insomma, lo vedevo come un liberatore, e quindi veniva in Sicilia a nuoto, proprio attraversava dalla Calabria alla Sicilia a nuoto, lo vedevo come un liberatore perché parlava contro gli scioperi dei treni a quell'epoca, gli anni 80. Cioè lei vuole dire che alcune delle cose che Grillo ha fatto e ha detto vengono dagli scritti? Sì, testualmente, lo ammetto, ma sono a corrente degli atti queste cose, non sto dicendo cose da Marte, cose che stanno... Scusi Antonio, però abbia pazienza, qui siccome questa trasmissione è anche il coacervo di alcuni... di alcune situazioni dal punto di vista psicologico piuttosto incerte. No, per carità, me ne assumo responsabilità. No, ma per dire, insomma, è anche un coacervo di persone squilibrate, però ecco, non è una cosa nuova. Lo sanno anche i cani e i gatti, insomma. Ma non no, è una... I cani e i gatti, no, noi non siamo né cani né gatti, per cui guardi, le assicuro no, che io... ma non mi riferisco a voi, cioè lo sanno anche le pietre, insomma, come dire. Ma ecco, che cosa sanno le pietre? Che lei ha scritto che delle io cose... io sono stato vittima di questi furti, ecco. Di furti perpetrati da chi? Da questo piccolo editore? Sì, si spacciava come grande manager, così. Vabbè, il quale ha rivenduto poi queste cose o comunque... Sì, sì. Ma non solo a Casaleggio, l'ha venduto ai editori, l'ha venduto ai giornali. Vabbè, e adesso, scusi, e adesso lei si riconosce, cioè le cose che ha scritto, le vede in quello che fa Grillo, che scrive Grillo? Sì, sì, un po' diciamo, come dire, rielaborate, perché erano per Comunione e Liberazione. Erano per Comunione e Liberazione, partito, che vuol dire per Comunione e Liberazione? No, perché io, cioè, molte canzoni, molte cose non erano destinate canzoni proprio a quel tipo di cantante, eccetera. Però sono state, come dire, un po' accorciate, un po' allungate, un po'... Capito? Qualche... Vabbè, guarda, secondo me è una, ecco, visita, comunque, guardi... Secondo me lei è un po' malato, una visitina, un po' paranoico. No, forse. No, allora, guarda, voi siete giornalisti e potete entrare anche nelle procure. Allora, che dobbiamo andare... Nelle procure, beh, adesso... Posso dirti anche il mio cognome, se vuoi, non sto dicendo fesserie. Dimmi, come ti chiami? Io sono Antonio Campisi, detto Carlo Antonio. Antonio Campisi? Beh, Campisi, sì. No, cognome esattamente tipicamente... abito ad Avola, no, in siciliano, provincia di Siracusa, pochi chilometri. Allora, Antonio Campisi sostiene di essere stato copiato da Grillo, cioè che Grillo ha copiato da lui, giusto? Sì. Lo puoi scrivere anche se solo 24 ore, 20 festival di Sanremo sono miei, anche le scene. Cioè, scusi, quanti festival di Sanremo sono suoi? Sì. 20. 4 Festival Bar e 3 Zecchini d'Oro, musicati in gran parte dal defunto Lucio Dalla. Ma scusi, lei che c'entra? Intanto è morto, questo? Non può negarlo. No, ma lo sanno tutti. Ma tutti chi? Io non vado ai matti, lo riesco a capire, lo sa uno. Ma dice, io ho fatto delle denunce di questo fatto, sono andato a finire. Ma che c'entra? Ma le denunce, non è che le denunce... Non è che se uno fa una denuncia automaticamente ha ragione. Allora, scusa, io ho le copie presentate alle guardie di eccetera, sì, all'autorità giudiziaria, sì, anche la gendarmeria vaticana, materiale sottrattomi, e loro tramite un'inchiesta SIAE già sapevano a chi l'avevano venduto prima ancora che uscissero. Vabbè, e tu mi stai prendendo per matto, Varenzo. Beh, un po', ma un no po'. Per carità di Dio, poi dici quattro, quanti festival di Sanremo, che ne so, ha vinto, ma io non lo so, ti posso dire anche tanti programmi finiti ad RTL, programmi radio, erano miei, tutto suo, venite già mangiati, sì. Ma adesso che ci penso, DJ, anche la Zanzara, lo posso dire, lo sanno anche le pietre, ma anche la Zanzara era suo, ora che sì, ci penso, sì. Come? Certo che è vero, era intestata tu, Lorenzo. Era sua la Zanzara, poi me la sono intestato, sì, io, è vero? Era sua la Zanzara. E l'ha intestata tu, Lorenzo, l'hanno venduta, sì, a te o all'editore, non so a chi. Onorevole Cascio? Chi parla? Buonasera, Cruciani, la Zanzara? Sì, buonasera. Radio 24, disturbo? No, mi dica. Senta, le voglio chiedere questa cosa del fatto che lei, pur non essendo più presidente dell'Assemblea regionale siciliana, sì, godrà di alcuni benefit, no? Sì, alcuni diciamo benefit. La stanza in Assemblea, sì. Beh, la stanza, gli assistenti, la ovviamente. No, assolutamente no, gli assistenti non ci sono, notizia infondata. Qua dice 4 stanze, 2 dipendenti... Purtroppo avete delle informazioni sbagliate. Tutto sbagliato, vabbè, ma noi infatti no, siamo... ho la stanza in assemblea e sì, ho il mio personale, essendo un deputato, ho i fondi per il portaborsa che posso utilizzare per pagare il personale che collabora con me. Non mi sembra una cosa, diciamo... No, ma quello ce l'hanno tutti i deputati regionali, dice lei. Esatto. Cioè, in più, rispetto a un deputato regionale, cosa le rimane da ex presidente? E allora, come ex presidente dell'assemblea regionale spetterebbe per 5 anni, cioè se un ex presidente, se un presidente dell'ARS viene rieletto, sì, in Parlamento regionale, sì, sì, spetta per 5 anni auto blu con autista, sì, ufficio dentro Palazzo dei Normanni, sì, e la segreteria, diciamo, che sì, ogni deputato si organizza, sì, insomma. E lei? Io ho rinunciato all'auto blu e mi tengo ovviamente la stanza perché mi sembra, diciamo, ho bisogno di lavorare, insomma, ecco, sono stato deputato, peraltro sono il più votato della Sicilia, per cui sì, vabbè, quello... mi servirà a lavorare. Che qualcuno dice che questa stanza è una sorta di mini appartamento. Guardi, io la invito, se vuole la invito. No, ma è una domanda, io non la voglio, chiediamo non a lei. Ma io la invito volentieri, sono, diciamo, 3 stanzette di 10 metri quadri l'una. 3 stanzette? 30 metri quadri in tutto. Sì. Una accanto all'altro, diciamo, tutto abbastanza. Vabbè, insomma, una stanza, un bel ufficio, diciamo. Un ufficio fatto, sì, di tre bani. Ma insomma, lei perché rinuncia, sì, all'auto blu? Non ho capito. È che è fesso? Sì, forse sì, forse sono fesso, sì. Probabilmente sì. Sono, cioè, fesso. Rinuncia sono, all'auto... sono sensibile, diciamo, alle. Come dire, alle stimolazioni che vengono dalla società civile e dalla stampa, diciamo che sono un fesso, sì, no vabbè, ma adesso questo qua è una battuta, naturalmente in un altro contesto non l'avrebbe fatto, cioè, chi si è mangiato l'Italia, io mi rendo conto di essere forse troppo sensibile alle sollecitazioni che vengono dal mondo della stampa, e quindi siccome sono stato il primo, diciamo, presidente dell'ARS che ha dimezzato lo stipendio dei parlamentari, sono stato il primo presidente dell'assemblea che ha tolto la pensione ai deputati, sì, sono stato, insomma, il primo ad aver fatto tante cose, sono il primo anche a togliermi l'auto blu, pazienza. Come gira con la bicicletta? No, in questo momento io ho la scorta della Polizia di Stato e la procredo fino alla fine dell'anno, e quindi in questo momento c'ho la polizia. Ma che come mai? Come mai? Cioè, per motivi di sicurezza, dice lei. Ma l'ha assegnata la prefettura di Palermo. Ah, ok. Scusi un attimo, ma è vero o no? Scusi se le chiedo questa cosa, che in realtà i grillini, che sono sempre così allergici, diciamo, almeno a parole, ma poi anche nei fatti, in alcuni casi, al potere, no? È vero o no che pretendevano la presidenza, anzi la vicepresidenza del Consiglio regionale? O sbaglio? Ma guardi, le dico la verità, l'ho letta stamattina anch'io nel giornale. Loro chiedono di poter avere un vicepresidente. Ma che gli frega? Teoricamente sono quelli che, no? Cioè, controllarvi meglio. Io non sono un grillino, non può fare a me questa domanda. No, ma per dire... rispetto a quella che è la loro filosofia, non dovrebbero richiederla. Evidentemente hanno compreso che per entrare forse più nel meccanismo hanno bisogno di delle poltrone, degli incarichi, e quindi chiedono di averla. Il problema è che loro hanno chiesto anche con un piglio anomalo, nel senso che loro pretendono la vicepresidenza, sì, non hanno nulla a pretendere perché hanno un gruppo di 15 deputati, per cui siccome il vicepresidente dell'assemblea si elegge, non si nomina, sì, no, beh, certo, ci vogliono 30 voti in assemblea, se li troveranno 30 voti avranno un vicepresidente. Scusate, però adesso facciamo il punto di situazione, perché questa storia dobbiamo definirla definitivamente. Lei è contrario, sì, ai benefit per gli ex presidenti? Questo mi sembra scontato, Cascio, perché altrimenti sarebbe una follia. Cioè, gli ex presidenti di un consiglio regionale, in questo caso della Sicilia, non dovrebbero avere diritto a nulla, anche se sono rieletti. Cioè, lei dovrebbe godere delle stesse cose di cui gode un consigliere regionale, qualunque, giusto o sbagliato che sia, o sbaglio? Io non ho detto questo. No, ma è giusto o no quello che dico io? Cioè, un ex presidente non è che dovrebbe avere degli appannaggi in più, no? Ma infatti non ho appannaggi in più, sono fatto la stanza. No, ma perché lei ha rifiutato. Perché lei ha rifiutato alcune cose, perché altrimenti avrebbe... vabbè, cioè, si è messo questo piano, sì, io ho rifiutato, no, ma chi ho l'autista? Ho rifiutato l'auto... Ma io sento due voci contemporanee, siete in due che parlate o una? Sì, c'è Parenzo. Sono anche Parenzo, buonasera. Vabbè, buonasera, no, non capivo se era un eco o eravate in due che... Sì, io ho rifiutato l'auto blu con l'autista. Bisognerebbe cancellarlo questo appannaggio dell'auto blu con l'autista. Cioè, si perché... potrebbe cancellarlo, sì. No, ma si potrebbe, si deve cancellarlo, cioè... Ma non tocca più a me, scusi, non mi dà più responsabilità. Vabbè, lei è del PDL, ormai sì, certo. Mi assumevo le mie responsabilità, non lo sono più il presidente dell'ARS. Vabbè, lei è consigliere regionale, comunque potrebbe dire: dare l'auto blu a un ex presidente è uno scandalo che va tolto. Cioè, ma esageriamo, scandalo. L'auto blu all'ex presidente è normale, secondo lei? Ma insomma, è scandalo. Ma mi scusi, ma voi vi siete resi conto che in Italia ci sono ex presidenti della Camera, ex presidenti del Senato? Sbagliatissimo! Da 30 anni con l'auto blu, la sbagliato! Ma che c'entra questo? Ma sbagliato, Cascio, sbagliato! No, scusi un attimo, E questi ex presidenti di Camera e Senato che camminano con la tuta da 30 anni sono, diciamo, con i benefit, anche se non sono più parlamentari, non sono più in politica, certo, da 30 certo, anni. Sbagliato, sbagliatissimo. Perché lei mi fa questo esempio? Perché mi è stato dal 96 e certo, ascolto dal 96. Ma perché lei mi fa questo esempio? È sbagliato perché, questo, ma com'è sbagliato dare l'auto blu all'ex presidente della Regione Sicilia? Io le faccio questo esempio perché il regolamento dell'ARS non prevede che l'ex presidente lo so solamente dire, se è rieletto solamente se è rieletto per i 5 anni successivi, quindi mi pare una cosa molto diversa. Sì, però è sbagliato lo stesso, cioè è sbagliato lo stesso. Uno scusi, al consiglio regionale ci va con la macchina sua o con i mezzi normali o con la bicicletta. Scusi, però posso dire una cosa, lei non è che può pretendere di dirmi che è sbagliato soltanto perché lo dice lei. No, io potrei dire no, è giusto. E beh, lo dica, lo dica. Scusi, no, scusi, sarei l'uomo più impopolare d'Italia, mi rendo conto. Ah, non ecco, può dire è sbagliato perché lo dice lei. No, mica ha detto perché lo dico sbagliato. Io. Secondo me, certo, secondo me. È una cosa che esiste da 70 anni, io ci ho rinunciato, ma se il prossimo presidente dell'AS ci vorrà, se non sarà tolta... Ho capito, ma lei avrà un'opinione su questa cosa qua, no? Cascio, avrà un'opinione? Ma secondo me per i successivi 5 anni è limitato al presidente che viene eletto, non è uno scandalo. Ah, è giusto, è giusto che sia così. Vabbè, o è giusto o è sbagliato, amico mio, però, qua scusi, tertium non datur, o è giusto o è sbagliato. Un conto è che lei ha rinunciato e la ringraziamo in ginocchio. Non sono questi gli scandali che dovrebbero ma nessuno ha detto sono molto più gravi, molto più seri, ma non stiamo dicendo che questo è un crimine di guerra, stiamo semplicemente dicendo porgendo una domanda. Un ex presidente che ha la macchina e lei ha rinunciato l'auto blu, secondo lei è giusto o no? Lei dice di sì o sbaglio? Io ho detto che non è uno scandalo. Vabbè, ho capito, se può decidere di togliere non cascherà il mondo, l'ex presidente prenderà una macchina sua, si farà guidare la macchina da un suo collaboratore, non è una cosa scandalosa. Non è una cosa scandalosa. No, diciamo onestamente a me scandalizza molto di più il politico che ruba. Ma scusi, ma perché? Ma perché un ex presidente deve avere l'auto blu? Mi spiega qual è la ratio di questa roba qua? Ma non c'è una ratio. E allora? Una ratio. Era, diciamo, un beneficio concesso un a... beneficio appunto sì un beneficio un beneficio concesso a una personalità politica che aveva nel periodo successivo alla sua ma non lo sa spiegare nemmeno nemmeno lei, questa è la realtà. Ma è la realtà, perché è così, perché non c'è logica in questo. Uno dovrebbe dire sì, per tanti anni c'è stato, adesso i tempi sono cambiati e bisognerebbe togliere questa regola punto e basta. Anche le stanze per esempio, è vero che non saranno chissà che, uno deve avere un ufficio, per carità, come consigliere regionale, però avere qualcosa in più come ex presidente non si capisce perché. È una cosa che non ha senso, sono piccoli sprechi. Certo, io sono d'accordo con lei, non è che sia la fine del mondo, non è che sia lo spreco più grande del mondo, però sono quelle piccole cose che tutte assommate fanno una cosa. Vabbè, senta Cascio, io voglio chiedere una cosa, lei la centrale nucleare dove la metterebbe? In Sicilia? Le stavo dando una risposta, una risposta. Io non la metterei proprio. Lo so. Non ce la metterei. Ma oggi Zichichi non c'era dopo la nostra. Non c'era, sarà collegato in teleconferenza. Ci collegheremo nei prossimi mesi con Zichichi. Viva Ginevra, farà l'assessore da Ginevra. Saremmo completamente in teleconferenza, utilizzerà il teletrasporto per poter essere fisicamente. Non le piace sto Zichichi, insomma. No, mi piace, che c'entra, non è questo, non do un giudizio sull'uomo, certo è che. In questo momento credo che consentirsi il lusso di avere due assessori, diciamo, itineranti, e parlo anche tanto decide tutto Crocetta. Vediamo, decida cose buone. Però scusi, c'è anche un piccolo budget in più che ha l'ex presidente. Sì, è un budget per spese di segreteria, sono 4.000 euro lordi. 4.000 al mese lordi? Sì, lordi, più. Certo. Anche quello vogliamo cassarlo oppure è giusto? No, secondo me, diciamo, un minimo, diciamo, di possibilità di far lavorare qualche persona che mi dia una mano nella svolgere le mie attività politiche. Ma ho capito, che differenza c'è? Ma scusi, ma perché un consigliere qualunque? Ex presidente è un consigliere, lei è diventato un consigliere qualunque. Perché deve avere delle cose in più? Per il fatto che sono l'ex presidente dell'Assemblea. Ma quello lo sappiamo, ma la logica qual è? Ma ho capito, ma non è una logica questa cosa qua. Come la si spiega ai cittadini? Cioè, ma tant'è che lei ha rifiutato la macchina. La macchina l'ha rifiutata, però questo no, i 4.000 in più no, perché lei già ha un appannaggio, già ce l'ha come consigliere regionale, ha un appannaggio in quanto ex presidente. Ma scusi, Cascio. No, scusi, guardi, quello non è un appannaggio per me, quelle sono, diciamo, è un budget. Vabbè, per lei, per gli assistenti, che quello che è. per spese, diciamo, di lavoratori dipendenti. Cioè, io non prendo quei 4.000 euro. Ma lo so, non se li mette in tasca, lo so, li utilizza per attività. Cioè, nel senso, sbagliato, sbagliato. Lei è un consigliere regionale come gli altri ormai. Secondo me è sbagliato. Sì. È un consigliere regionale come gli altri. Non è che in quanto ex presidente ha diritto a delle cose in più perché c'è stata una carica a vita. Cioè, è questa la follia. Non c'è logica. Vabbè, comunque, lei non è convinto di questa cosa. Vabbè, se volete posso anche, diciamo, se do fastidio, diciamo, ma no, ma che c'è? Detto, posso anche dimettermi. Ma so, no, ma che c'è? Ho una professione, facevo il medico, posso tornare a fare il medico. Cioè, ma se questo è il problema dell'Italia, io giuro che mi lascio da parte. Cioè... Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Non rilassarti mai, lei non dà tregua, sai. Poi ogni tanto mi manda a fanculo da solo perché dice basta queste sete, cioè proprio. Allora a un certo punto, vedendo un comico, lui lo fa per mestiere e dice le barzellette, così poi mi sono reso conto che in realtà non diceva cose comiche, c'era da piangere, cioè noi ridevamo perché in realtà dovevamo piangere perché diceva cose serie. A quel punto che fa? Scendi per strada e dici ma mannate tutti a fanculo e siamo arrivati al 2007. Si chiama Zezé, ma questo insetto che noia che è, e la zanzara che succhia il tuo sangue. C'è sta adesso il 21 dicembre del 2012 la profezia Maya, c'è la fine del mondo, fa tanta gente che gli frega. Cioè, il problema non è la fine del mondo, è la fine del mese, che qui si arriva proprio, cioè un bordello, quindi... Pure se arriva fino al mondo, vabbè, che ci frega, non c'è niente da perdere. Il mitico, mitologico Magarelli, che si candida così con le parlamentarie del Movimento 5 Stelle, non vogliamo sputtanare Grillo, ma semplicemente rappresentare una parte di realtà. Dunque. Ma il signor Cascio che fine ha fatto? È sparito? È abbassato, ha chiuso il telefono. Chissà come mai, signor Cascio. No, eh? Vabbè, si difendeva. Combatteva come un leone, Cascio. Richiamiamolo. Comunque, allora, proviamo a richiamarlo. Intanto ti dico che Regir De Benedetti, ospite a 8:30 dalla signora Gruber, ha detto questo: ho dato il mio gruppo ai miei figli perché donare è una gioia. Così ha detto. Che è buono, la tua compagnia si chiama Tigre oppure si chiama Zezé. Ma questo insetto che rompi che. Pronto? Eccoci qua. È caduta la linea, amico mio. Roba normale. Comunque, eravamo in diretta, non ho capito. Noi siamo sempre in diretta. Alla grande, funziona così, chiamate diretta nazionale. No, ma diciamo buonasera Cruciani, buonasera Parenzi, siamo in diretta. Dicevamo, uno, lei ha detto che è una vergogna avere l'ufficio più grande, giusto? Rimettiamo in ordine le cose. Non l'ha detto. Rinuncia a quei soldi in più che ha. Scusi un attimo, mica per fortuna non ha detto delle cose sconvenienti. No, se volete mi lapido in pubblica piazza. No, lei fa bene. Lei guardi, no, nell'intervallo contento lo faccio. Nell'intervallo abbiamo detto che lei ha combattuto come un leone, si è battuto bene nella dialettica, si è comportato. Congiuntivi sbagliati. Ha detto che questi 4.000 euro in più di appannaggio forse non vanno tolti perché servono per dare del lavoro a qualcuno, giusto? Non era questo il senso della mia risposta. Ho detto che sono soldi che vanno a collaboratori che lavoreranno con me in questi anni. In questo senso. Cioè, non sono soldi che vanno al deputato come indennità, diciamo, extra budget. Vanno per spese di segreteria, segretari, collaboratori, addetto stampa, eccetera. Addetto stampa. Perché lei ha bisogno come ex presidente dell'addetto stampa? Non ne ho bisogno come ex, ne ho bisogno come consigliere regionale, come deputato regionale, non come ex presidente. Beh, però l'ha detto stampa è previsto come ex, uno in teoria potrebbe anche non averlo, l'ha detto stampa come consigliere. Uno potrebbe anche non averlo, ma anche un deputato semplice potrebbe anche non averlo. Io ritengo, per comunicare con la stampa, di avere bisogno di un certo aiuto, mi affido a un professionista. No, perché... Mi sembra anche giusto. Cioè, no, ma in questo... contributo alla categoria della stampa. Paraguru! Però scusi, no. Cascio, ci elenchi un po' questa cosa che non è stata mai applicata. Non è che ci siamo fissati su questo, è una piccola cosa, per carità. Adesso non sto dicendo che lei è il più grande dissipatore di denaro pubblico, anche perché non dipende da lei, ma dalla norma precedente. Però esattamente qual è l'appannaggio dell'ex presidente? Esattamente, con economico, esattamente no, dire, no, economico. L'appannaggio da ci sono. Allora, uno ha diritto a che cosa in più rispetto a un consigliere regionale? Cosa ha diritto in più? Ah, l'auto blu, se l'auto uno... blu con l'autista dell'assemblea. Ebbene, lei l'autista. Sì, degli autisti di ruolo dell'assemblea. L'autista lei non lo utilizzerà allora? Ho detto che l'auto blu e l'autista non lo utilizza, per una scelta personale. Benissimo, benissimo. Poi ho deciso di non utilizzarlo. Un ufficio più grande degli altri, un ufficio più grande rispetto un a quello. Un ufficio, del... diciamo, un po' più grande degli altri. Un po' più grande. Quanti assistenti in più rispetto agli altri? Allora, assistenti parlamentari no, nemmeno uno, zero assistenti parlamentari. Ho un budget di 4.000 euro che posso utilizzare per spese di collaboratori. Spese quindi di collaboratori. Io ci prenderò, io con questi soldi. Ma qua dice due dipendenti, di cui uno esterno e di fiducia pagato dall'assemblea. No, sbagliato, notizie false. No, è un budget di 4.000 euro che posso utilizzare per personale esterno. Pensavo che ci fossero nell'appannaggio due dipendenti al suo servizio, no? No, assolutamente no. Guarda che controlliamo tutto poi noi, eh. Giuro, lo giuro su chi lo posso giurare? Su Parenzo, che ne so, no. su Crocetta, su, su Crocetta. No, su Crocetta no, perché poi... Su Zichichi, su Zichichi. Giuro su Zichichi. Su Zichichi, vabbè, comunque, lo assolviamo o no? Sì, beh, lo assolviamo. Solo perché ha combattuto. Dopodiché è assurdo difendere privilegi, simili privilegi. Però, per carità. Lei dovrebbe fare un passo in più per essere più popolare, Cascio. Si ha facciato un consiglio, non gli addetti stampa, cioè qui non danno consigli. Il passo in più dovrebbe dire: io mi batterò per eliminare tutti gli appannaggi agli ex presidenti, che sono una vergogna. Allora, non lei, però, invece è convinto che è giusto. Scusi, consigli una cosa: in questo momento, diciamo, il beneficiario unico di questi privilegi sono io, perché sono l'unico ex presidente che è stato rieletto. È vero. Ce ne sono 10 ex presidenti che ha avuto è stato sfigato. Lei è stato sfigato. Sono l'unico. È stato sfigato, diciamo. È vero. Però, vabbè, è sfigato per modo di dire. Sono stato sfigato per modo di dire. Perché poi alla fine, insomma, essendo stato il deputato, il candidato più votato più voti. Quanti voti ha presi lei, signor Cascio? 12.005 per esattezza. 12.005, bisogna fare conferma. Pigliare 12.005, bisogna essere macchina da guerra. Ma lei è convinto? Manco Toti Lombardo le ha presi 12.005. Neanche Toti Lombardo. Ma lei è convinto che tra questi voti ci possono essere, come dire, anche che? Persone legate alla... Ma perché se so, chiedo, ma che c'entra? Perché sai, quando dici in Sicilia tutte queste... legate, scusa, ma niente. No, dico tutte queste... In Sicilia, cioè, lui pensa che ogni persona votata in Sicilia abbia l'appoggio della criminalità. L'appoggio. Questo è offensivo nei confronti di Sicilia, non nei miei confronti. Appunto, io ne dico sfati questo mito. Queste cose non è una cosa. Ma infatti, spiego bene il concetto. Ma non è un concetto. Va sfatato questo mito, perché spesso si dice, non sono mica l'unico che dice che le preferenze in Sicilia sono sinonimo di comunque di avere legami, cose clientelari. Ci spieghi perché non è così, ci dica che non è proprio, perché non è così, questo è il punto. Poi io le posso dire perché nel mio caso non è così. Invece in quale caso spesso io non posso fare una smentita, diciamo, categorica che valga per tutti. Vabbè, ma lasciamo perdere, questo ovviamente, è un argomento introdotto da Parenzo, un argomento introdotto ridicolo. Io posso dire che nel mio caso non è così, affido a venire a Palermo a prendere anche informazioni su chi sono argomento ridicolo introdotto ma da non su di lei voglio sì, restare purtroppo su allora, diciamo che il sistema elettorale che col voto di preferenza è un sistema che avvicina, diciamo, il cittadino al candidato, e quindi il candidato può, se vuole ovviamente, utilizzare anche sistemi clientelari. Cascio, non c'è dubbio che in Sicilia nel passato, forse anche nel presente, è stato utilizzato questo tipo di sistema promettendo il posto solo di lavoro, questo non c'è dubbio. Vabbè, Cascio, io non faccio parte di quella categoria. Mi dico una cosa, lei conosce le canzoni di Battiato? Tutte, quasi tutte. Quella che conosce di più qual è? Centro di gravità permanente, ovviamente la mettevo quando facevo il DJ in radio, anche io ero collega vostro, io facevo il DJ in radio. Ma dove? Dove? No, a una radio locale palermitana 30 anni fa quando ero giovane. Mi divertivo. Allora gliela mettiamo su. Com'è che fa il centro di gravità permanente, lo ricorda? E come? Cerco un centro di gravità permanente. Che non mi facevo mai cambiare idea. Ma io non cambio idea quasi mai, tranne quando mi rendo conto di aver detto una cazzata, allora cambio idea. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. Siamo qui, Paolo da Roma. Buonasera, Paolo. Salve, volevo salutarvi. Dica. Volevo dirvi volevo dire a Parenzo, sì, che stavolta ha sbagliato, l'ho fatto un po' fuori dal vaso, forse un po' chiuso dalla faziosità, perché Ingroia fa rima con Scaiola, esattamente con Scaiola, cioè tutte e due indagano per conto dello Stato e poi se lo rivendono. Rivendono, diciamo, quello che non è male questa, però non è... la battuta è carina, la battuta è carina. Secondo me si è distratto da questa, cioè Ingroia è assimilabile. Peraltro le sentenze non si commentano, cioè i giudici parlano attraverso le sentenze, non parlano fuori dalle sentenze. No, ma lei... io infatti non riesco a capire la questione, al di là dei giudici fuori dalle sentenze, eccetera. Ma la questione molto semplice è questa, cioè come fa Ingroia da magistrato a dire che quella della, sì, Cassazione è una sentenza politica? Dimenticate in particolare che Ingroia in quel caso lì è parte in causa, cioè quello che ha subito il ricorso della cosa, come fosse un attore, no? Non è semplicemente un magistrato. Ma cosa vuol dire? C'entra che siccome invece le sentenze si possono commentare, sì, ma quando uno dice sentenza politica significa che una sentenza che non si basa sul diritto ma è condizionata da motivazioni politiche. Ma non è l'unico che lo sostiene, lo sostengono Pannella, lo sostengono, ma quelli sono politici, Ingroia fa il magistrato, ma lui in quel caso è parte. Lui in quel caso lì, voi non l'avete capito. Paolo, lei che pensa invece? Io penso che Ingroia è un giudice, i giudici non si possono permettere di dire che gli altri giudici utilizzano questa parola, sennò si mette proprio dalla parte di alla Berlusconi, diciamo. Grazie, allora, grazie Paolo, esattamente, la penso come lei. Giuseppe da Catania. Salve, buonasera, buonasera. Buonasera. È un piacere innanzitutto ogni sera ascoltarvi quando si torna a casa. E io volevo dirle una cosa in merito al fatto di Miccichè che vuole la centrale solare, la centrale nucleare al centro della Sicilia, che poi è una proposta, quello che ho capito, di Zichichi. Allora, io innanzitutto... Non è una proposta, è un desiderata, diciamo. È un desiderio di Zichichi. Perfettissimo. Allora, lei devi immaginare, io abito in una provincia di Catania, in un paese che si chiama Adrano, che nell'81 è stato scelto alla Comunità Economica Europea come posto più assolato dell'Europa, e quindi hanno costruito una centrale solare a tempi a specchi, e lei si immagina che nell'81 è venuto pure il presidente, nell'85 se non ricordo male, il presidente Pertini per l'inaugurazione, quindi è stata una cosa di un clamore mediatico incredibile. Allora? E il fatto cos'è? È che noi in Sicilia purtroppo abbiamo il grande pregio di poter andare indietro nel tempo, cioè invece di passare avanti, cercare di trovare fonti rinnovabili e aggiornarci su tutto quello che ha da offrirci la nostra magnifica terra, andiamo sempre più indietro. Vabbè, però Giuseppe, scusi un attimo, ma adesso non si sta discutendo di nucleare sì o no in Sicilia, peraltro non è una decisione siciliana. Non è all'ordine del giorno. Cioè, stiamo parlando di frasi pronunciate qui alla Zanzara dal neo assessore alla cultura della regione Sicilia, che hanno fatto scalpore perché ha detto che sarebbe felicissimo se la Sicilia fosse piena di centrali nucleari. Stia sicuro che tutto ciò non avverrà. Molto semplicemente, è però una posizione interessante, non è che stiamo svilendo quello che abbiamo fatto, perché fa capire che un assessore che partecipa a una giunta col Partito Democratico non ha paura di dire quello che pensa sul nucleare, cioè che lui non vedrebbe male il fatto che l'Italia fosse piena di centrali nucleari, e poi lo spiega anche il perché. Grazie Giuseppe. Alberto da Salerno. Qui c'è De Benedetti che continua a sfornare notizie, Beh sì, che ha detto che Bersani sarà il prossimo presidente del Consiglio, ma non è una notizia. No, diciamo che è un suo desiderata anche, sì, in questo caso. Esatto. Alberto da Salerno. Buonasera Cruciani, buonasera anche a Parenzo, grande Parenzo. Io ascoltavo prima qualcosa a proposito di Berlusconi, volevo dire il mio pensiero in proposito, me lo consentite? Beh, ha telefonato. Sennò che vuol fare? Il siamo caffè. Qui per questo. Io sono convinto, mi sono formato questa convinzione, che Berlusconi, da grandissimo figlio di buona mamma qual è, si presenterà alle prossime elezioni con una propria squadra di tecnici. Cioè Berlusconi si presenterà con una squadra di tecnici, che vuol dire? Di tecnici, sì, una propria squadra di tecnici. Lui si presenterà insieme con persone provenienti dal mondo dell'impresa, dal mondo della finanza, che si sono affermate, che rivestono ruoli di grande prestigio all'interno delle imprese, e sono convinto che si presenterà agli elettori con questa nuova veste bianca e credo che sia una cosa, l'unica cosa che possa fare, liberandosi della zavorra. Ma è quello che vuole fare, presentarsi alle elezioni lui insieme ad un gruppo di persone totalmente nuove. Alberto, la devo salutare. Piero da Terni, buonasera. Sì, Cruciani, buonasera. Intanto siete fantastici, anche Parenzo. Volevo dire, tornando a Cascio prima, lì, ma vado a fare il medico, vado a fare l'ECM, vado a fare i corsi di perfezionamento, lasci perdere la politica, si deve vergognare quella persona lì. Perché? Che ha fatto, signor Cascio? Come che ha fatto? Come che ha fatto? Sta dicendo che i privilegi che vuole, l'ex presidente diventa consigliere, vuole gli addetti stampa, i collaboratori, ma per che cosa? Si devono vergognare, come il presidente dei parlamentari in pensione di poche sere fa aveva parlato ugualmente, mi scusi, non se signor ne può Bianco più. Gerardo Bianco, il signor Bianco va a fare prende 6.000 euro, altre 9.000 non lo so, forse ma va in giro nelle scuole però. Sì, va a fare la cultura, a insegnare la Costituzione, il Parlamento. La cultura parassitaria. La bella politica. Gerardo Bianco. Grazie Piero, non si arrabbi, anzi si arrabbi. Bruno da Pistoia, vada. Buonasera dottor Cruciani, buonasera. Conoscendo la tradizionale conclamata simpatia di Parenzo per tutti quello che è centrodestra, le chiedo comunque una cortesia, mi faccia completare per esteso. No, ma guardi che siamo in conclusione, 10 secondi. Allora, se la mette così, buon Natale. Che le devo dire? Mi no, faccio ma parlare. Capito, ci sentiamo alla domani. Fine. Ha chiamato alla no, fine. No, ma purtroppo. Ho fatto la battuta nel senso che Parenzo, tutto quello che è centrodestra, è da buttare chissà dove. Io sono un elettore di centrodestra. A domani. Dire. Ciao Bruno. La richiamo. Ciao. Importante uno solo. Da dentro, dagli fuoco. Cioè, proprio sterminali. Ma chi stermini? Quelli già sono morti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Mannate tutti a fanculo. Radio 24. La passione si sente.